Allora, lezione del 27 gennaio. Cominciamo con un testo di Stuart Home. Stuart Home è stato, ma è ancora, insomma, uno degli esponenti di alcuni movimenti underground, cosiddetti underground inglesi, tra cui il principale, quello che si chiama neoismo. Poi è stato in contatto più o meno con la persona Luther Blissett in Italia, di cui parleremo successivamente. Ha scritto un libro che purtroppo è introvabile, credo ormai, che si chiama Assalto alla cultura, correnti utopistiche dal lettrismo a class war. Allora, del lettrismo, che è l'anticamera del situazionismo, parleremo dopo, ma partivo con questa cosa. Praticamente nell'ultima parte non faccio altro che rifare sviluppare un po' le cose che facemmo nel 2009, quando partì il primo seminario di autoformazione del collettivo Autart, quando ancora il collettivo Autart esisteva in questa università. E per cui qui vi do anche il materiale che preparai in quel momento lì. Allora, vediamo cosa dice Stuart Home e poi commentiamo. Roger Taylor, nel suo libro Art, an Enemy of the People, già il titolo, Arte, nemica del popolo, uscito per la Harvester Press nel 1978, quindi Roger Taylor dimostra che l'arte è stata ben poche volte analizzata matematicamente, e lo fa esaminando l'arte in quanto pratica sociale e paragonando la conseguente descrizione materialista alle analisi marxiste sull'argomento. Egli inizia mettendo in evidenza che l'arte come categoria deve essere distinta dalla musica, dalla pittura, dalla scrittura, eccetera. L'uso corrente del termine arte la tratta come una sottocategoria di queste discipline, che le differenzia al loro interno sulla base di valori percepiti. Quindi vuol dire, nella musica in genere si pensa che ci sia una parte che è arte e una parte che non lo è. Nella scrittura c'è una parte, una scrittura artistica, una scrittura non artistica, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, per esempio, la musica di Mozart è considerata arte, quella di Slaughter and the Dogs invece no. Io non so che siano Slaughter and the Dogs, tu lo sai chi sono. Sarà stato un gruppo punk inglese, lui il libro è scritto nell'88. Slaughter and the Dogs, il macellaio e i cani, vabbè. Quest'uso del termine arte, che pone distinzioni tra diverse musiche, diverse letterature, eccetera, è nato nel XVII secolo, contemporaneamente al concetto di scienza. Prima di allora il termine artista era impiegato per descrivere i cuochi, i calzolai, gli studenti delle arti liberali, eccetera. Vabbè, è in modo un po' rozzo e da ragazzo di strada, però è fondamentalmente giusto. Il concetto di arte nasce nel XVII secolo, nelle culture precedenti non c'è nessuna attività artistica separata dalle altre attività pratiche, tanto è vero che nel greco antico la parola tecne serviva per indicare sia ciò che noi indichiamo con tecnica sia ciò che noi indichiamo con arte. Quando nacque l'accezione moderna del termine, si trattò di un tentativo da parte dell'aristocrazia di mantenere i suoi valori di classe come soggetti di una reverenza irrazionale. L'arte venne dunque equiparata alla verità, e questa verità era la visione del mondo aristocratica, una visione che sarebbe stata ben presto rovesciata dalla emergente classe borghese, forse meglio. Come classe rivoluzionaria, la borghesia desiderava assimilare lo stile di vita dell'aristocrazia in declino. Questo è vero. I primi borghesi, ma anche oggi un po' tutti, insomma, adesso la borghesia non c'è più, quindi non ha più senso parlare, c'è la classe, insomma. diciamo sino all'88 poteva pensare che ci fosse la borghesia, sino agli anni 80. Insomma, tutta la borghesia, se ci sono le pagine di Nietzsche molto belle in Umano, troppo umano, che si intitolano Contro l'arte delle opere d'arte, Contro l'arte delle opere d'arte, e lì, già lì Nietzsche è cattivissimo, insomma, e affonda il coltello nella piaga. Diciamo, mettendo alla berlina, insomma, noi diremmo la coda di paglia, insomma, il sentimento di inferiorità e di impotenza che i borghesi avevano nei confronti degli aristocratici che stavano per rovesciare o che avevano già rovesciato, e di cui però invidiavano, ammiravano, tentavano di imitare, ovviamente con risultati ridicoli, lo stile di vita. Più o meno è quello che in Germania si indica col termine Biedermeier, cioè questa affettazione simil aristocratica, ma in realtà burina, diremmo noi, qui con un termine romanesco italiano, insomma, del contadino, del borghese arricchito che da un momento all'altro si vuole mettere a imitare, quindi mi sembra giusto. Come classe rivoluzionaria la borghesia desiderava assimilare lo stile di vita dell'aristocrazia in declino, ma poiché le azioni della borghesia avevano per lo più lo scopo di abolire i precedenti stili di vita, quando essa si appropriò del concetto di arte, contemporaneamente lo trasformò. La bellezza smise più o meno di essere equiparata alla verità e venne messa in relazione ai gusti individuali. Facciamo una piccola nota: in realtà il termine, il concetto di gusto è, come dire, ai suoi inizi, che il termine gusto viene, si comincia ad impiegare in Europa all'incirca nel XVII secolo, sì, per indicare una nuova facoltà dell'essere umano, che se l'arte prima non c'era, non c'era bisogno di nessuna facoltà che, diciamo, fosse la facoltà che metteva l'uomo in condizione di comprendere o anche consumare l'arte. Se l'arte non c'è, non c'è bisogno di nessuna. E quindi le facoltà tipicamente umane erano considerate la facoltà conoscitiva, evidentemente, quindi diciamo l'insieme di facoltà che costituiscono la conoscenza, che poi Kant avrebbe schematizzato nei tre gradini della sensibilità, dell'intelletto e della ragione. Poi c'era una facoltà morale, cioè la possibilità dell'uomo di distinguere il giusto dall'ingiusto e quindi il bene dal male, insomma, il bene dal male, diciamo, più che il giusto dall'ingiusto, che è un'altra cosa. Quindi queste erano le due facoltà fondamentali degli esseri umani. Quando nel 600 comincia, in realtà il concetto di arte nasce un secolo prima, insomma, quindi quando nel 500 nasce il concetto di arte in senso moderno, praticamente è un concetto che nasce con il libro di Vasari sulla vita dei pittori, scultori, eccetera, eccetera. Insomma, praticamente Vasari fa la prima storia dell'arte, insomma, in qualche modo, la prima storia dell'arte contemporanea per lui, perché era l'arte di quelli che lui conosceva, dei suoi amici, eccetera, eccetera. Quindi quando nasce viene individuato questo nuovo campo di attività degli esseri umani, che è l'arte, evidentemente occorre individuare nell'essere umano una facoltà che lo metta in grado di apprezzare l'arte. Quindi nasce di lì a poco l'estetica, quindi quella parte della filosofia che prima non c'era. Platone, Aristotele non c'erano nessuna estetica. Aristotele scrive un libro che si chiama La Poetica, ma in realtà parla solo del teatro, o comunque delle arti, intese nel senso delle arti della scrittura, delle arti, diciamo, letterarie, perché le arti che noi oggi chiameremo arti visive non erano considerate, non erano poiesis, non erano creazione. La poiesis, cioè la poesia, l'unica attività per i greci che era considerata creativa era quella del linguaggio, cioè come, che entro certi limiti non è, sono sbagliato, perché obiettivamente il linguaggio, dovendo ricreare la realtà, cioè ciò che si vede, che si sente, con strumenti totalmente differenti da quelli della realtà stessa, effettivamente è una diciamo, creazione. Quelle che noi chiamiamo arti visive per i greci non sono arti, non sono creative, in un certo senso, perché la buona arte si deve limitare, o comunque, forse limitare è un termine sbagliato, ma insomma si deve prevalentemente imitare la natura. Allora, per imitare la natura, il greco dice, non c'è nessuna creazione ex novo, no? Diciamo, il pittore e lo scultore non creano nulla, mentre il poeta sì, quello che scrive. Allora, i primi teorici seicenteschi si inventano questo termine gusto, che è un termine strambo, perché, no? Il gusto, che vuol dire? Cioè, il gusto già era, come in tutte le lingue indoeuropee in cui nasce questa cosa, il gusto indicava, era uno dei cinque sensi tradizionali, ed era uno dei più, dei meno nobili, no? I due sensi più nobili sono ovviamente la vista e l'udito, perché sono quelli attraverso i quali passano i veri contenuti cognitivi, insomma, per conoscere la realtà. Gli altri tre, che sono il tatto, adesso però ce ne sono molti di più, insomma, però un tempo si pensava per 5. Il tatto, l'olfatto e il gusto sono robe, come dire, a contatto, cioè servono solo per delle attività bassamente materiali, insomma, mangiare, fare l'amore, robe del genere, insomma. Quindi non sono così. Allora, in realtà l'uso del termine gusto deriva dal fatto che come in realtà nessuno di questi teorici è in grado di capire bene che cosa cazzo sia questa arte davvero e che cosa, e quindi che cosa sia questa, perché comunque diciamo la facoltà di giudicare il bello e quindi di discernere il bello dal brutto è qualcosa che è sempre stata pericolosamente, ambiguamente a cavallo tra il senso tra una attività cognitiva, perché mi dice qualcosa del mondo, che è, però non mi dice quello, non mi serve per dare una descrizione scientifica o comunque diciamo accettabile o comunque affidabile del mondo. Quindi sta a cavallo tra le attività conoscitive e le attività che danno un senso di piacere. Però è un piacere che non ha fondamenti diciamo cognitivi, insomma, non mi aiuta a dire qualcosa sulla conoscenza. Quindi mi dà un piacere, ci sono delle cose che mi piacciono, però in realtà dire mi piace, cioè perché poi quando Kant nel 1692-93 scriverà la critica del gusto, cioè la terza delle sue grandi critiche, e quindi darà la prima grande sistemazione dell'estetica moderna, insomma, e anche lui si troverà di fronte a un problema di questo tipo. E il problema di questo tipo qual è? Il problema qual è? È che il concetto di bello, come viene elaborato dall'estetica moderna, è un concetto tendenzialmente universale. Se una cosa è bella, dovrebbe essere bella per tutti. E però questo contrasta invece con il primo livello dell'assiduità di giudizio sul bello, che parte da una sensazione di piacere. La sensazione di piacere non è affatto universale, è una sensazione totalmente individuale. Le cose piacciono o non piacciono a diverse persone, a quello che piace a me non piace a te, quello che piace a lei non piace a lui, eccetera. Però poi quando si va a tentare di costruire una teoria dell'estetica e quindi a costruire una teoria, come dice Kant, dei giudizi teleologici, dei giudizi che hanno per fine quello di valutare e quindi non di dire come è fatto il mondo o quali sono le cose buone da fare, ma giudico sulle cose che mi sono utili o che mi sono inutili, che mi piacciono o che non mi piacciono, sono tutti giudizi che hanno un'affinità di questo tipo. Tra questi il più importante è il giudizio estetico, ma se è un giudizio deve avere in qualche maniera una validità universale. Adesso non faccio un corso sull'estetica, quindi non vi spiego come Kant ha risolto questa, diciamo, contraddizione, questa aporia. Però che come dire, diciamo, l'estetica sia sempre stata un terreno minato per la filosofia si vede proprio anche dal modo in cui dal termine che viene usato, dal termine che viene preso, appunto il gusto, per indicare la facoltà umana che presiede a questo genere di, diciamo, di gusti. Quindi è come dire, un concetto bastardo, ibrido, che da un lato affonda le sue, diciamo, radici in attività e puramente corporee, il gusto, il piacere, mettere una cosa in bocca e gustarla, e le attività invece più, diciamo, astratte. Il giudizio estetico è un ibrido tra un'attività materiale che coinvolge il corpo e un'attività astratta. Questo naturalmente non sarebbe un problema ovviamente per un buddista o per un induista, ma lo è per la storia del pensiero occidentale che dalle prime filosofie presocratiche e poi con Platone in maniera eclatante è una filosofia dualista, cioè ha sempre contrapposto l'anima al corpo e quindi non... Quindi è ovvio, però cose di questo tipo per la cultura occidentale sono sempre state come dire, fonti di problemi, fonti di cose ambigue. Fine del commento sul gusto. Allora, la bellezza smise di essere più o meno equiparata alla verità e venne messa in relazione ai gusti individuali. Mentre l'arte si sviluppava, l'insistenza sulla forma e la conoscenza della forma e l'individualismo, fondamentalmente il romanticismo, dice Stuart Home, diedero autorità al concetto di arte come particolare ed evolutiva mentalità della nuova classe dominante, cioè della borghesia. Qui Stuart Home già taglia un po' di nodi, perché dice, quindi, lungi dall'avere una validità universale, l'arte è un processo che ha avuto luogo, che ha luogo nella società borghese e conduce a una irrazionale reverenza nei confronti di attività adatte ai bisogni borghesi. Lui sta sempre citando questo libro di questo Roger Taylor, poi nelle ultime righe dice quello che pensa lui. No, lui praticamente condivide quello che dice questo Taylor. Questo processo pone l'oggettiva superiorità delle cose definite arte e di conseguenza la superiorità dello stile di vita che le celebra e del gruppo sociale che vi ha a che vedere. Tutto questo si condensa nell'affermazione che la società borghese e l'eponima classe dominante, cioè la classe che dà il nome a quella società, cioè la borghesia, è in qualche modo collegata a una superiore forma di conoscenza, cioè appunto l'arte. Da ciò possiamo dedurre che l'arte continuerà ad esistere come specializzazione finché non verrà abolito il capitalismo stesso. Se l'arte, da un punto di vista materialistico, è un processo che ha luogo nella società borghese, non si può porre la questione di una sua realizzazione. Una simile idea è mistica, poiché implica che non solo che l'arte abbia una sua essenza, ma che come categoria sia autonoma dalle strutture sociali. Intraprenderne la realizzazione e la soppressione è un tentativo di salvare questa mentalità proprio nel momento in cui la categoria viene abolita. L'arte scompare dai musei solo per ricomparire dappertutto. Come per la pratica autonoma del proletariato, in realtà questo è il vecchio sogno borghese di una categoria che propagandi la coesione sociale. Non troppo curiosamente, questa pagina di Stuart Home riecheggia in certi passi quasi alla lettera, un oscuro libro oscuro perché è poco noto, ma che spero che entro quest'anno sarà noto, sarà nuovamente noto in Italia, perché sto per preparare una nuova edizione, era già uscito in italiano la prima volta nel 79, ma è un libro francese che si intitola Histoire désinvolte du surréalisme, storia disinvolta del surrealismo, che è stato tradotto in italiano come controstoria del surrealismo. Adesso non so come lo tradurremo nella prossima edizione, ma comunque sarà il testo, ed è l'autore è un misterioso J.F. Dupuis. In realtà questo signor J.F. Dupuis ovviamente non esiste, è lo pseudonimo di una invece persona più nota che si chiama Raoul Van Eygen e che è uno dei più importanti esponenti del situazionismo. In questo libro di Van Eygen Dupuis si fa una critica serrata del surrealismo proprio da questo punto di vista, cioè proprio imputando al surrealismo e a Dada, che è uno diciamo, degli antecedenti del surrealismo, l'illusione di superare l'arte realizzandola. Questo dice quanto dura l'arte. Se l'arte, dal punto di vista materialistico, è un processo che ha luogo nella società borghese, non si può porre alla questione di una sua realizzazione. Una simile idea è mistica perché implica non solo che l'arte abbia una sua essenza, ma che come categoria sia autonoma dalle strutture sociali. Quindi il problema, dice Van Eygen in questo libro, non è quello di realizzare l'arte, ma quello di e neanche quello di come dire, negarla dialetticamente, come in fondo aveva già preteso Hegel, che è l'autore della seconda grande, del secondo grande trattato di estetica dopo quello di Kant, e che è un libro postumo uscito dopo che lui era morto, ma che comprende le sue lezioni degli ultimi anni all'Università di Berlino, si chiama appunto Lezioni di estetica. Nella estetica Hegel, ma anche in altre opere, Hegel aveva previsto, aveva profetizzato insomma, la morte dell'arte, perché aveva interpretato l'arte all'interno della sua grande filosofia della storia, per cui la storia per Hegel non sarebbe altro che la successione delle tappe e degli stadi attraverso i quali questo agente, questa sostanza universale che lui chiama lo spirito, diventa a poco assoluto e nel momento in cui diventa realmente spirito assoluto, comprende che tutto il mondo non è altro che una sua creazione, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi da questo punto di vista si può liberare di tutti gli strumenti che preventivamente lo spirito nella costruzione della sua autocoscienza totale aveva utilizzato per segnare il rapporto con le proprie creazioni prima di rendersi conto che sono sue diciamo, creazioni diciamo prima di rendersi conto che tutto il mondo, che tutta la realtà non è altro che una creazione, che è lo spirito che sogna se stesso in qualche modo. Nell'espandersi, nello svilupparsi di questa visione di Hegel, dice Hegel, da un lato la religione, dall'altro l'arte, non sono altro che due momenti di questa storia dello spirito che si rende sempre più auto, diciamo, cosciente, ma si rende auto-cosciente, ma in una fase in cui ancora, come dire, oggettiva, crede oggettive, ritiene oggettive, quindi separate da se stesso come diciamo soggetto, le sue proprie creazioni. E quindi si inventa Dio e si inventa l'arte. In realtà né Dio né l'arte hanno una vera, cioè, come dire, la parte spirituale dell'uomo è già Dio in qualche modo, non è panteista Hegel, ma poi in fondo, alla fine, diciamo, arriva a una conclusione simile a quella alla quale era arrivato già diciamo, Spinoza un secolo e mezzo prima, Quindi non solo poi si accorge che Dio è, non è altro che diciamo se stesso, che l'arte non è altro che una sua attività, però in una prima fase deve, come dire, tenere separate. Ma nel momento in cui lo spirito si accorge che il mondo non è altro che una sua proiezione, quindi che se stesso era, diciamo, abolirà tanto la religione quanto l'arte. Questa è la morte, diciamo, dell'arte di Hegel. 70 anni dopo, Nietzsche porrà le cose in termini totalmente diversi. La morte di Dio di Nietzsche non è la realizzazione di questo singolare disegno hegeliano che a un certo punto comprende tutto, abbraccia tutto, eccetera, eccetera. La morte di Dio per Hegel, e quindi che coincide anche per Nietzsche, la morte di Dio che coincide anche per Nietzsche con uno scatto di autocoscienza, di presa di coscienza dell'essere umano, è invece una presa di coscienza della totale finitezza dell'essere umano e non della, diciamo, mentre per Hegel esiste all'interno dell'uomo una parte che è già comunque infinita, lo spirito è infinito di per sé ed è soltanto reminiscenza platonica, ed è soltanto il corpo che lo rende finito, che lo limita, eccetera, eccetera, ma una volta che lo spirito si sia liberato di tutti i limiti, di tutte le false coscienze, eccetera, eccetera, e si riconosca come identico col mondo, la sua infinitezza, come dire, diventerà attuale e non soltanto potenziale. Nietzsche non ha, diciamo, nulla di questo punto di vista. Nietzsche parte da dall'accettazione della radicale finitezza dell'uomo e del mondo. La morte di Dio per Nietzsche è semplicemente il superamento di un meccanismo proiettivo, di un meccanismo, aggiungiamo noi, di una logica di dominio, aggiungo io, di una logica di dominio che realizza questa, diciamo, che è il vero scopo, che è la vera ragione che sta dietro a tutti questi meccanismi proiettivi, e quindi rappresenta la possibilità per l'uomo di superare se stesso, di diventare oltre uomo, non superuomo come viene tradotto in genere, quindi Übermensch. L'Übermensch di Nietzsche non ha niente a che fare con il superuomo nazista o con altre robe di questo tipo, insomma, è quello che è molto più vicino a quello che oggi chiameremo postumano, cioè ad un processo di superamento, di cambiamento delle condizioni, diciamo, di autolettura dell'uomo, uscire dal dominio della non tanto della superstizione, ma dal dominio dell'ignoranza dei propri processi di interazione con, diciamo, la materia e con il mondo, e quindi anche, da un certo punto di vista, anche per Nietzsche c'è una specie di superamento dell'arte a un certo punto, però non è quella di Hegel, insomma. Tornando a noi, la ricostruzione che fa più o meno Stuart Home in modo anche un po' brutale in questo breve passo che vi ho comunque, diciamo, raccontato, dei rapporti che ci sono tra arte e processi sociali è comunque, diciamo, io la ritengo corretta, voglio partire da lì per dire però che, e qui poi ci ricongiungiamo alla questione di Van Eyghem e alla critica di Van Eyghem alle avanguardie, però da lì, cioè, è talmente rapido questo processo di sviluppo di un settore di attività umana, l'arte appunto, soprattutto per quanto riguarda le arti visive, perché è lì che cambia. La letteratura c'era sempre stata in qualche modo, no? Ed era sempre stata considerata un'attività, anche per gli antichi greci, mentre per i greci per esempio non pensavano che quelle che noi chiamiamo arti visive avessero la stessa funzione, la stessa cosa. Quando queste arti visive si autonomizzano, quindi quando nasce il concetto moderno di arte, e quindi si sviluppa rapidamente un settore sociale e una nuova attività sociale, nasce una nuova figura sociale, nasce l'artista, come dire, moderno. Per i primi secoli, per il 500, 600, una parte del 700, non ci si accorge bene di questa cosa, perché sembra che l'artista sia sempre quello di prima, perché è sempre uno che ha una committenza, c'è una parte del potere delle istituzioni tradizionali, l'impero, la chiesa, lo Stato, il comune, che gli dà il lavoro, che gli dice vieni qui, affrescami questo palazzo, costruiscimi questa chiesa, scolpiscimi queste statue, no? Cioè, così vivono gli artisti, sino più o meno ancora Bernini, Borromini, Caravaggio, per gran parte del 600 le cose vanno così. Ma poi nel corso del 700 rapidamente questa committenza pubblica declina, comunque diventa meno importante, non scompare certamente del tutto, scomparirà più tardi, ma comincia, proprio perché l'arte serve per gli scopi di una nuova classe sociale, questa nuova classe sociale che è la borghesia, come dire, di borghesi ce n'è più che di aristocratici, sono sempre meno del popolo, sono sempre pochi, ma intanto sono molti di più di quelli che erano anche aristocratici. E soprattutto hanno una logica che è totalmente diversa, è una logica di consumo e di appropriazione privata. Quindi vogliono, la cosa nasce già nel XV secolo, nel XVI secolo, nelle Fiandre, quando il genere tradizionale della ritrattistica comincia a cambiare e invece dei soliti papi, imperatori, eccetera, cominciamo ad avere i primi quadri di mercanti, di borghesi, di gente privata, di gente che non sono un cazzo dal punto di vista pubblico, non sono capi di Stato, non sono è gente magari nota nella sua comunità, ma non ha un ruolo istituzionale, sono semplici privati che però si fanno fare i quadri, perché hanno i soldi per farsi fare i quadri. E quindi comincia a svilupparsi quello che sappiamo tutti cos'è, insomma, che è il mercato dell'arte. Il mercato dell'arte comincia all'incirca nel 700, quando declina la committenza pubblica, viene fuori questa nuova cosa. Lo sviluppo di questa cosa però è così rapido e così impetuoso che basta un secolo e mezzo, praticamente già nel corso dell'Ottocento, sotto la spinta combinata delle nuove tecnologie, di nuove tecnologie di riproduzione dell'immagine, che sono ovviamente la fotografia per prima, e sotto la spinta di una, come dire, di un aumento della complessità anche dei progetti produttivi delle arti, diciamo, tradizionali, ma soprattutto del loro significato sociale. Cioè, intanto il numero di fruitori si comincia ad allargare. Cominciano i salon, cioè cominciano le grandi esposizioni pubbliche in cui il pittore espone le sue opere, certamente con la speranza che arrivi qualche ricco borghese che gliele compri, perché questa è la cosa fondamentale, però in questo modo intanto si fa conoscere a un gruppo di persone più ampio. Allora, da un lato ci si rende conto che l'arte tradizionale deve affrontare la concorrenza di nuove tecniche, di nuovi strumenti di riproduzione della realtà, e ovviamente questo accelera il processo dell'arte di stacco dell'arte dalla tradizionale mimesis, dalla imitazione. Cioè l'arte comincia a non volere più imitare la natura o a imitarla in modo molto più diverso, in modo molto diverso da come l'aveva imitata sino ad allora. E questo spiega il cubismo, l'astrattismo, eccetera, eccetera, anche in parte il futurismo, dal punto di vista delle tecniche. Dal punto di vista dei rapporti con la società, questa simbiosi, questo abbraccio mortale, da un certo punto di vista, nel quale la borghesia, i borghesi singoli, non la borghesia come classe astratta, i singoli borghesi, vogliono stringere il pittore e lo scultore per, per fargli fare, cioè rimane un ruolo di committenza in qualche modo, no? O di committenza o di, in realtà non c'è più una violenza, non è più che il, come dire, Borghese Maria gli disse fammi questa cosa. La committenza, come dire, Borghese è più astuta, si ritira dietro, quindi non è che il, cioè, pittore parte, cioè, ci sarà sempre il grande Borghese che si fa fare il ritratto, però compra anche delle cose che l'artista fa per i fatti suoi, senza aver pensato. Però c'è sempre questa, come dire, committenza. Cioè, il caso di Van Gogh è diciamo emblematico, non tanto per la sua sfiga, non perché non abbia trovato in vita qualche, magari c'era pure qualcuno, era lui che non, come dire, non aveva le giuste strategie di marketing, si direbbe oggi, per farsi conoscere, no? Ma non è tanto questa la cosa, è che però dietro al dramma di diciamo di Van Gogh c'è questa non è la lettura che è stata data per esempio da Artaud ed altri, sono altri modi di vedere la figura di Van Gogh, ma per quello che mi serve a me ora sottolineo questo aspetto, che non è che evidentemente diciamo esaurisce i discorsi da fare su Van Gogh, ma la figura di Van Gogh dimostra che c'è una, come dire, che questo meccanismo di nuova committenza che passa prevalentemente attraverso il mercato, quindi io faccio qualcosa e che praticamente riduce il pittore a essere una specie di capitalista, diciamo, di se stesso, perché deve produrre delle merci che però devono andare incontro ai gusti di una cerchia molto ristretta poi di, diciamo, consumatori, e quindi deve rischiare, come il capitalista che produce un modello di scarpe rischia, dice, faccio questa scarpa nuova, la metto sul mercato, cazzo, se poi non piace a con nessuno la mia azienda fallisce, come un moderno esempio produttore di macchine, di automobili italiano che diciamo, un po' di anni che fa delle macchine che non piacciono ai consumatori e tanto hanno avuto la possibilità, astratto la Fiat dovrebbe chiudere, perché cazzo continua a non beccarne una buona, ma cioè, ha solo qualche vecchietto nostalgico che continua a comprare le macchine, ma le vai, cioè, l'hanno tutte meglio le altre, dice perché Dio, allora c'è un'altra logica, e quindi invece di concentrarsi su come fare delle macchine se migliori, si concentra su come mettere nel culo agli operai che lavorano per lei, ma queste però sono strategie chiaramente, non so se sia proprio nei diritti del signor Marchionne, comunque è nei diritti del signor Marchionne di farlo, ed è ovviamente nei diritti degli operai, se ci riescono, di diciamo, come dire, difendersi o di trovare qualche modo per metterlo in quel posto a lui. Diciamo, allora, il dramma di Van Gogh è quello di, appunto, di non, è quello di trovarsi stritolato da un meccanismo in cui diciamo il fatto che la tua arte, il fatto che i tuoi quadri non incontrino il gusto o comunque non vengano venduti, che tu non trovi nessuno che te li compra, di, come dire, favorisce il dubbio dell'artista su se stesso, allora vuol dire che non sono un bravo artista. O se io sono convinto di essere un bravo artista, o se sono convinto delle cose che dipingo e delle cose che faccio, ma queste cose non trovano riscontro sul mercato, si apre un conflitto tra quello che fa questo singolo artista e le cose. Allora, è duplice, diciamo, sono di ordine duplice i motivi che creano la crisi delle arti figurative e delle arti visive tradizionali tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Uno, abbiamo detto, è di ordine tecnico, cioè la comparsa, per cui l'arte si sposta verso cose. Da un lato. Dall'altro c'è questa cosa di ordine economico-sociale, perché allora il vero dramma di Van Gogh, al di là di come se l'è vissuta lui evidentemente, non è quello di dire i miei quadri non vendono, ma è la mia arte non ha più funzione sociale, quello che io faccio non ha più funzione sociale. È un dubbio che il pittore anche più disgraziato, scrauso, miserevole e paralitico della primissima modernità e del Tanto Medioevo non aveva, perché se lui, come dire, dipingeva era, perché se era bravo trovava quelli con un sacco di quattrini, se era meno bravo quelli con meno quattrini, ma c'era sempre qualcuno, una confraternita di frati, un cazzo di comune, un gruppo una associazione corporativa di mercanti, non del sino, quindi diceva per favore fai questa cosa, ti diamo un po' di soldi. La funzione sociale dell'arte era garantita prima della modernità, a tutti, non solo ai grandi, piccoli, bravi, meno bravi, chi faceva il, come dire, pittore, sapeva che la sua arte aveva una funzione sociale. Con l'apparire del mercato questa cosa non è più garantita. Se c'è un mercato dell'arte, la mia arte, diciamo, questo in tutte le attività, però nel caso delle attività tradizionali artistiche è più pungente, è più stracciante, crea molto maggiore conflitto. In generale è vero che, cioè, qual è il vero guaio, qual è il vero schifo del capitalismo? Non il fatto che produca delle merci, cioè che produce degli oggetti che si vendono a un certo prezzo, non è questa la questione. È che il meccanismo economico, la creazione del valore e la realizzazione di questo valore su di un mercato si trasferiscono nella assiologia, cioè nella creazione di valori, diventa un valore. Quello che conta è quello che conta, l'unica cosa che conta, insomma, diciamo, detto in termini più brutali, il capitalismo realizza per la prima volta nella storia dell'umanità una dittatura dell'economia sul resto delle attività dell'uomo, che è paralizzante. Non che l'economia non ci debba essere, ma non può essere certamente l'unica fonte di qualsiasi cosa abbia come valore, conti nella vita, diventa l'economia, diventa il profitto. Quando questo capita, tutto il resto delle, diciamo, come dire, attività, ivi comprese quelle che tradizionalmente erano considerate di maggiore prestigio, di maggiore valore, eccetera, perdono. Dice, cazzo, ma allora che cosa diavolo devo fare? Se non trovo nessuno che mi compra, questo è la gran parte insomma, non so se anche voi siete in questa situazione, ma insomma, voglio dire, generalmente in una scuola di una tecnologia forse si pensa di no, ma insomma la gran parte degli studenti di Brera 1 pensano così, cioè alcuni di loro perlomeno, diciamo, considerevoli percentuali, insomma, vorrebbero diventare artisti, sanno che però lo spazio è quello che è al di là di Cattelano, non parliamo solo di Cattelano, a parte quelli grandi, anche quelli piccolini, c'è un numero limitato di persone che poi riescono a campare anche male, ma riescono a campare perché trovano una schifosissima galleria che li rappresenta e vende i loro quadretti, le loro illustrazioni, i loro video, qualsiasi cosa facciano, no? Allora, questa questa identificazione del valore economico con il valore sociale e, diciamo, culturale è essenziale, cioè è la morte di quel che è. Questa cosa che adesso per noi è chiarissima, ma era già visibile un secolo fa, un secolo e mezzo fa, adesso. La nascita delle avanguardie in gran parte è una risposta a questi due problemi. Cioè, al problema tecnico di dire ma cosa mi metto a fare adesso che esistono delle tecniche per riprodurre il reale, che sono molto più rapide e economiche di me che imbratto tele con un pennello, da un lato, e dall'altro è qual è il valore sociale delle cose che io faccio nel momento in cui c'è questa pervasività dell'economia che sta invadendo anche il mio campo. Se voi ci pensate bene, le avanguardie nascono effettivamente per dare delle tentare di dare delle risposte nuove a queste due domande. Ci sono movimenti artisti singoli e diciamo gruppi che si focalizzano più sul primo tema, altri più sul secondo. In generale però i due temi sono intrecciati, è diciamo difficile fare un taglio, come dire, preciso. Però possiamo dire, per dirla molto, per tagliare con diciamo l'accetta, possiamo dire che movimenti come il cubismo, diciamo il fauvismo prima, poi il con il cubismo e la sua costola che è stata l'astrattismo, sono più sensibili al primo problema, grosso modo. E quindi risolvono il problema della mimesi, cioè della imitazione, della diciamo realtà, trasferendo il prodotto di ciò che fanno dal regno del visibile a quello dell'invisibile. Non ti faccio vedere la brocca e l'arlecchino come li vedi tu con i tuoi occhi, ma ti scompongo nel mio quadro la brocca e l'arlecchino o il violino, eccetera, eccetera, nei suoi elementi costitutivi, nelle attività molecolari, atomiche dei tuoi sensi, del tuo occhio, del mio occhio, del nostro occhio, e scompongo sulla tela quella che la nostra mente ricompone, ti faccio vedere, oppure non ti faccio vedere la realtà, ti faccio vedere una sorta di grammatica della diciamo, realtà, di elemento diciamo, costitutivo, ti faccio vedere delle linee verticali e orizzontali, non sia mai diagonali per Mondrian, e dei campi di colore che stanno dentro fra l'uno e l'altro, no? Sono sempre domande, sono sempre tentativi di risposta a questo tipo di diciamo, domanda. Cosa faccio vedere? Che cosa dipingo sul quadro? Malevich, gran parte del costruttivismo russo va in quella diciamo, direzione lì. E ci sarà per tutto il Novecento una parte, poi c'è cioè quelli che svilupperanno diciamo, ricerche di questo tipo. Per arrivare allo spazialismo, a Fontana, e a un sacco di cose, a Burri, eccetera, eccetera. Sempre all'ingrosso possiamo dire che invece Dada e un decennio dopo, più o meno, 15 anni dopo, Surrealismo, si concentrano più sulla seconda di queste di questi campi, come dire, problematici. E qui fanno quello che Stuart Home, e prima di Stuart Home i situazionisti, in realtà rimproverarono loro. Il rimprovero che i situazionisti fanno, che per esempio Van Eyck fa in questo libro che vi ho letto, nella controstoria del surrealismo, fa a appunto Dada e il surrealismo, è questo. Se voi avete voluto rinnovare l'arte dall'interno, avete capito che c'era una connessione che si andava perdendo tra l'arte, la società, eccetera, eccetera, ma siete stati troppo timidi, siete stati troppo artisti, non avete fatto il vero taglio radicale che avete diciamo, dovuto fare, e che era quello non di fare un'arte rivoluzionaria, di cui non ce ne frega molto, dicono i surrealisti, ma di utilizzare la vostra attività artistica per fare parte davvero del processo rivoluzionario. Quindi non la rivoluzione dell'arte, ma l'arte della rivoluzione, insomma, detto in modo diverso. Perché gli situazionisti potevano fare questo? Perché in realtà venivano anche loro. Erano uno dei risultati di quella storia. Siccome alcuni dei concetti base sui quali, dei processi cardine sui quali si basano gli esempi di cui vi voglio parlare, non di arte rivoluzionaria, ma di rivoluzione artistica, di arte della rivoluzione, derivano dal come dire, sul realismo sarà bene spiegare un po', dal situazionismo sarà bene spiegare un po' chi erano e cosa erano questi. Allora, diciamo, intanto un po' di cronologia, insomma. Cubismo, Dada, futurismo, costruttivismo russo, cubo, futurismo russo, eccetera, eccetera, sono tutte tendenze che nascono e si esauriscono rapidamente tra l'inizio del Novecento e gli anni 20, ma neanche tanto, già nel 1920, insomma Dada. Il surrealismo, che nasce a metà degli anni 20, è l'ultima e la più longeva e la più lunga delle avanguardie, perché in realtà l'azione del surrealismo si sviluppa dalla metà degli anni 20 a tutti gli anni 30, poi c'è la guerra, e addirittura riprende poi nel secondo dopoguerra con questa specie di secondo surrealismo. C'è anche un secondo futurismo, ma è molto meno interessante nel dopoguerra. Però nel primissimo dopoguerra quello che è importante è che, al di là del surrealismo ufficiale, che però, come dire, è molto interessante, cioè, mentre il primo surrealismo produce anche delle personalità e delle comunque figure dal punto di vista della storia dell'arte di un certo peso, a prescindere dal giudizio che vogliamo dare di loro, che ci piacciono o no, però diciamo Max Ernst, soprattutto Max Ernst, diciamo Dalì, Magritte, insomma, Tanguy, sono tutte persone che, diciamo, vengono più o meno, alcune vengono da prima, ma riflettete sul fatto che la figura più importante in realtà di quel primissimo periodo degli anni dopo, che fu Marcel Duchamp. Duchamp non si pensa neanche lontanamente a, diciamo, compromettersi con il Breton e con il surrealismo, anche perché da tempo lui se ne è già andato negli USA più o meno in quel periodo, insomma. Il surrealismo fu, tra tutte le avanguardie, quella che più organicamente di altre però tentò di fare questa fusione, e quindi, mantenendo la propria figura di artistico, senza mettere in discussione il fatto che fossero, diciamo, artisti, Breton continuava a scrivere le sue poesie, a scrivere i suoi libri a Breton, e scrivere Foucault pure, e Louis Aragon pure, e tutti quanti, perché era poi qualcosa di collettivo, ma insomma comunque i loro libretti, i pittori, però in quanto artisti si consideravano rivoluzionari, e quindi tentarono in vari modi delle forme di intervento diretto dell'artista nella vita politica e nei processi politici. La rivoluzione surrealista, che fu la prima rivista in marzo, anche perché l'espressione della naturalista, nei primi 3-4 anni di vita e anche dopo, insomma, rigurgita di testi politici. No. Perché? Perché nel frattempo c'è stata la rivoluzione russa nel 1917, c'è un intensissimo scontro, diciamo, periodo di scontro di classe in tutta quanto l'Europa, tutti si aspettano dopo il 17 lo scoppio di altre rivoluzioni proletarie nei paesi più avanzati d'Europa, in quelli in cui il proletariato era veramente più forte che non in Russia. Il proletariato era, diciamo, la Russia è il paradosso di una rivoluzione proletaria fatta da un popolo di contadini, cioè in cui la presenza numerica del proletariato industriale è molto debole, piccolissima, concentrata soprattutto a Pietroburgo, che è il vero centro industriale, con un peso politico ovviamente fortissimo, un partito politico minoritario dentro la classe operaria, perché non erano maggioritari neanche i bolscevichi, che però è più è più astuto di altri, è più insomma, sintonia per cosa, quindi prende il potere, esercizio il potere, che sono la guerra civile, si scaccia con gli altri partiti, i sociali rivoluzionari, i menscevichi, eccetera, c'è un casino. Diciamo, in realtà nel 21-22 era già chiaro che non c'era nessuna rivoluzione. All'interno del capitale, quello diciamo l'agenda politica della prima metà del Novecento in Europa e nel mondo, nonostante la rivoluzione russa, non fu lo scontro tra capitale e lavoro, non fu lo scontro tra borghesia e proletariato, fu lo scontro tra due diversi modelli borghesi, uno democratico tra virgolette e uno autoritario senza, tra virgolette, fascista, ma su quello. La prima guerra mondiale fu il prodromo, fu l'antefatto, gli stati cosiddetti democratici si scontrarono con le potenze centrali, con il paese che stava per, che era la Germania, che si era appena unificata, eccetera, eccetera, Germania, e con l'impero asiatico europeo, che era l'impero austro-ungarico, che però aveva già delle compagnie verso l'Asia, insomma, comunque rappresentava l'Asia dell'Est, l'Europa dell'Est in qualche modo. La prima guerra mondiale finisce che queste due potenze vengono umiliate, l'impero austro-ungarico viene dissolto, l'impero ottomano che gli era venuto dietro peggio che andare di notte, e con tutti i puttanai che abbiamo adesso Medio Oriente sono il risultato della distruzione dell'impero ottomano nel 1918. La Germania viene umiliata, viene sconfitta, diciamo militarmente, quindi la sovranità degli Anzolari non va a culo, viene fuori una repubblica debolissima, ma viene fuori soprattutto una frustrazione, un'esasperazione, eccetera, eccetera, e quindi nuovamente la Germania non si integra di nuovo, diciamo, dell'Europa, non, diciamo, nessuno in quel periodo ha una, l'unica cosa sarebbe stata quella ovviamente di integrare maggiormente la Germania nell'Europa, ma per far questo non si doveva fare la pace di Versailles, cioè non si doveva a Versailles le potenze vincitrici, Inghilterra e Francia e anche gli Stati Uniti, erano molto poco, ma non c'erano, non avrebbero dovuto mettere in primo piano l'umiliazione della Germania, cioè di far pagare dei debiti di guerra enormi, eccetera. E questo non lo fanno, quindi si creano guai loro, insomma, l'ascesa del nazismo in Germania è sbagliato dire che sia l'effetto della rivoluzione russa, perché in realtà diciamo, il fascismo in Europa non nasce in Germania, nasce nei paesi latini, nasce in Italia, che è sempre stato un gigantesco laboratorio politico, specie per le cose di Roma, naturalmente siamo più specializzati in quello che nel resto, ma insomma, prima il fascismo, ora il comunismo, sono due fenomeni, diciamo, entrambi che nascono qua, cazzo, che però hanno un valore, anche il comunismo ha un valore oltre l'Italia, perché non è che è espressione di una serie di presenze sociali che sono europei, che non sono italiani, sono mondiali. In Italia si realizzano in forma particolare, ovviamente, perché è un continente che tende a toccare il culo ai minorenni, va bene, capisco, però questo è folklore, cazzo, cioè la cosa grave non è che questo qua facesse i sorpettini ad arco, sono cose, va bene, brutte, eccetera. Però non è questo, diciamo, la cosa essenziale, io penso che naturalmente confido molto, molto pericolosa la Lega, diciamo politicamente che non loro, perché nella Lega si esprime in modo molto più chiaro questo etnocentrismo, questo diciamo, superamento da destra della crisi della democrazia tradizionale, che c'è la crisi, perché questo è un dubbio, insomma, cioè, nessuno può pensare che diciamo, non ci sia, ma questa cosa viene superata con le due, e questo è il luttonismo, insomma questo, la gente che non parla del tasso, la gente che non parla del tasso, che ormai è convinta che sia un diritto di non parlare del tasso, fare tasse, quindi io non lo figuravo, ragazzi, mi riesce a parlare delle tasse, ma bene comunque, se è un povero Cristo, è meglio usare le sue tasse, certo, se è il grande capitalista, no, perché cioè, quello è il problema, non si elude le tasse, non elude, insomma, la, e comunque sia, diciamo, in qualche maniera, la. Allora, ma per insomma, tornare a noi, perché tutto questo più o meno influisce sull'arte, quindi il insomma, surrealismo, sia pure illudendosi, ripeto, perché già nel 21-22 era chiaro che la Russia sarebbe rimasta isolata e che la rivoluzione, almeno per un po', non andava, perché c'era lo scontro, diciamo, capitalismo democratico, capitalismo autoritario, capitalismo fascista, insomma. Finché era soltanto l'Italia, va bene, finché era la Spagna, voglio dire, va bene, già cominciato in Spagna, cominciato in Spagna. Ma quando è la Germania, il più grosso paese, la più grande potenza economica dell'Europa che diventa fascista, è chiaro che quello è un problema, no? Cioè che non c'è alcun dubbio. Poi la storia degli ebrei, eccetera, è giusto, ma perché? Perché anche la storia dell'arianesimo, di questa ideologia razzista, dell'uso politico del razzismo. L'antisemitismo in Europa c'era da ben prima, mica se lo sono inventati i nazisti. Cioè, in Francia erano più antisemiti che non in Germania. Basta pensare alla cosa al caso del Houston, cioè la Spagna. La Russia era tutta l'Europa dell'antisemitismo, solo che la cosa chiave è che la Germania fa dell'antisemitismo, ne fa un processo industriale su vasta scala, questo è il fatto, ma era un paese, questo paese, io mi rivolgono le putella quando sento le persone tipo il grande orrore nazista, l'orrore, ma questo paese non è che fosse l'orrore, è che è stata, non è un incidente di percorso, già il capitalismo è stato così buono, tutti stanno andando col cazzo, cioè il capitalismo ha sempre avuto e continua ad avere anche oggi alternative, cioè ci sono varie vie, vari modi di gestire politicamente la società, questa identificazione di capitalismo e democrazia è stupida, non è affatto vero che la democrazia sia il modo naturale delle società capitaliste di gestirsi. Il nazismo dimostra chiaramente che adesso è stata sconfitta, certo è più dura, è stato per 50 anni, però il fatto che risaltino fuori i nazistelli, i fascisti, i gruppetti, diciamo, razzisti, non sono tanto pericolosi loro, sono quattro deficienti, quattro gatti, ricoglioniti, ma è che indicano che questa roba è dura da morire. Cioè, e è indubbio che l'attuale neoculismo, quello di Forza Italia e della Lega, insomma, riprende una serie di cose. Ma perché Alleanza Nazionale avrebbe potuto sciogliersi così dentro il partito di Berlusconi? A parte Fini, ma insomma, un'ala consistente dell'Alleanza Nazionale, cioè gli ex fascisti, gli italiani, perché si sono trovati così bene? Perché stanno a casa loro, perché anche il berlusconismo in forma nuova riprende la parte, e in una parte nuova anche la Lega riprende quel genere di cose. Quindi vedete che non è che siamo, adesso siamo immunizzati perché abbiamo visto la guerra mondiale, oggi è la giornata della memoria, facciamo la giornata, vedete che sto anche celebrando la giornata della memoria, facciamo tutta la giornata della memoria, cioè io sono i treni di Natale, quindi siamo tutti contenti, siamo tutti vaccinati. Col cazzo, non siamo vaccinati per nulla. Non siamo vaccinati per niente. Cioè l'autoritarismo, il fascismo, il razzismo, il dominio brutale dell'uomo sull'uomo, siccome è l'essenza del capitalismo, non diciamoci stupidati, Dio buono, siccome è l'essenza del capitalismo, siccome il capitalismo è la teorizzazione del fatto che chi riesce a gestire i capitali può avere di fatto diritto di vita e di morte sugli altri, Domani facciamo aprire i rapporti, si apre la prima cosa e quindi parleremo di schiavitù volontaria. Questo è il tema, cioè la schiavitù volontaria. Si costringono masse enormi di persone a scegliere autonomamente di fare gli schiavi, perché non hanno altra alternativa. Cioè, il sistema economico che ha queste basi, perché dobbiamo pensare che abbia bandito per sempre? Col cazzo, non ha bandito per sempre, per no. Insomma, va bene. Comunque, i surrealisti, poi che cercarono di decidere, quindi la revisione surrealista era, in realtà, come gran parte degli artisti, Bretone era un personaggio, diciamo, intrattabile. La cosa più interessante, soprattutto per tutte le persone che transitarono dentro il movimento e furono surrealiste per sei mesi, un anno, due anni, prima di essere brutalmente cacciati da Angelo Breton, che faceva tanto democratico, però in realtà non si portava. Questo è il caso di Antonin Artaud, questo è il caso di Jean Bataille, persone tra le più interessanti. Artaud diresse la rivoluzione surrealista per due numeri, anche lui era uno chiaramente intrattabile, non che si fossero tutti anche gli altri, come ovvio, insomma. Però cioè, fra loro ecco, Breton era sto scontro terribile. Bataille pure, Bataille è uno che probabilmente è uscito dal surrealismo, però ha poi fondato il collegio di sociologia, ha tirato fuori la storia del dono, eccetera, è uno che ha avuto anche una elaborazione politica totalmente particolare, molto particolare, ma forse interessante, più interessante di quella di Breton. Certo, i surrealisti, come dire, meno dotati, tanto per usare un eufemismo, come Aragon e Loire, dopo la prima fase, cioè la primissima fase in cui praticamente porta tutto il surrealismo dentro PCF, dentro il comunismo francese. Però nel 27, dal 27 al 29 c'è la rottura di Trotsky con Stalin, Trotsky va in esilio, uno di quelli che avevano ideato e guidato la rivoluzione d'ottobre, insomma, il vero numero due dopo Lenin era Trotsky, non era Stalin, era uno scuro blocco sul cazzo, però si era costruito un potere tale dietro al partito in pochi anni, che dopo la morte di Lenin nel 23 ci mise tre anni già nel 26 a fare fuori. Nel 27 Trotsky viene prima mandato ad Armata in Siberia, diciamo al confino, e poi fuori da Luz nel 29. Breton è scioccato da questa cosa, perché lui aveva già avuto un po' di Trotsky, eccetera, eccetera, quindi lui rapidamente decide di abbandonare il comunismo ufficiale e di schierarsi con i petroschisti. Ovviamente Breton l'altro Aragon non ci pensano neanche, i pittori francesi loro ma se sa anche loro la questione, ma gli scrittori un po' più sì. Per cui loro invece vanno con il PCF, il Bataragon, ma diventerà uno degli scrittori. E invece, Breton si trova in questa cosa, quindi si trova in questa situazione in cui il povero Trotsky non è che viene assassinato nel 40, ma il suo tentativo di fondare un'altra internazionale è stato sempre ridicolo. Parlo di un'altra internazionale, io sono stato trotskista per 9 anni, quindi sono un po'. Dopo per me sono studiato e ho video anche vissuto dall'interno di questo movimento. Lui ha fondato una pseudo quadra internazionale, ma sempre c'è stata una federazione di tutti con gli stessi cose. Però insomma, questa è la critica. No, allora possiamo andare avanti. Bene, dopodiché c'è il terzo nostro guerra mondiale, c'è quello che c'è. Subito dopo la guerra mondiale, però questa idea, questa pratica e queste esperienze di rapporti tra artisti, singoli o gruppi e movimenti sociali in qualche maniera rimane. E quindi nel primissimo dopoguerra, tra il 47 e il 49, ci sono due, tra i tanti gruppi che ci sono, perché in qualche maniera l'avanguardia non pareva morta ancora del tutto. Certo, si erano un po' fermati, cioè, questo scontro che aveva insanguinato il mondo aveva ovviamente polarizzato l'attenzione di tutti, non c'era tanto spazio per fare movimentini e gruppi di artisti quando c'era questo scontro. Però no, quindi il dopoguerra molti posti non militare. I due gruppi più pensanti sono tutti i gruppi partendo paranoica al massimo, però insomma gli artisti sono in gran parte così, soprattutto. Allora, quello più paranoico si chiamò Lettrissimo, internazionale lettrista, era fondato da un rumeno che stava a Parigi, si chiamava Vigito Izu, che teorizzava. Che teorizzava una specie di scrittura nuova, di scrittura matematica, eccetera, lettrissimo, lettrista. E però vedi che usa questo termine internazionale, era, questa è una internazionale, no? E quindi è l'internazionale. Lettrista. Solo i lettristi. Tra questi c'è un giovane francese che si chiama Guy Debord, che fa parte di questo movimento. Contemporaneamente, più fuori dalla Francia che dentro, tra Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam, un gruppo di giovani pittori e architetti si mettono insieme e formano un gruppo di pittori e di architetti che proprio dalle Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam, cambi il K e scrivi così, formano un gruppo che si chiama Cobra. Un gruppo che si chiama Cobra. Questo gruppo Cobra è il pittore più importante, è un danese che si chiama Asger Bjørn, poi c'è un architetto olandese che si chiama Constant, questa Constant è il nome di battesimo, c'è un cognome di Inque e Bruce, non so, non si può usare Bruce, si chiama Constant, ovviamente. E questi qua sono più o meno i due più importanti. Rapidissimamente Debord litiga con abbandona il personale trista e entra in contatto con questi qua. Contemporaneamente mi sembra che qualche inglese tenta di fare un gruppo che chiama, però questo adesso mi ricordo meno, per una Bauhaus in Madrid. Tutte queste persone qua entrano in contatto con qualche altra persona, tra cui il più importante è un pittore piemontese che vive in Liguria, che si chiamava Pinot Gallizio, e tutti insieme si vedono in un giorno d'estate del 1957 in un paesino le montagne Liguri sopra Imperia, che si chiama Corso d'Arroglia, e li fondano l'internazionale di questo. Quindi, nel resto di è un gruppo di artisti, anche di Debord a dare l'intervento, però anche Debord non fa cinema, fa dei film posteriori, non certamente il consumo, insomma, il suo film principale si chiama Urmand à Fauve de Sade, Urla di Paolo di Sade, dura credo quasi un'ora e è andato tutt'altro, qui c'è uno schermo nero e si sente della gente che grida dietro, che parla, insomma, ovviamente non vi raccomando né di non ve la consiglio neanche, però comunque sappiate che c'è, poi sono altri film, questo è più quel credibile che tipo è. però è interessante leggere sul mio posto. Allora, sulle pensiero, quindi c'è certamente una matrice artistica, ma fino dall'inizio il nome internazionale situazionista è vuol dire internazionale, vuol dire vogliamo fondare, sostanzialmente perché sono in tanti paesi, però insomma quando uno chiama un gruppo internazionale è ovvio che il riferimento è alla terza internazionale, insomma, alla terza internazionale di Lenin, che è stata l'unica che ha avuto la quarta di Trotsky, insomma, ecco che è, però volendo uno di anche questo. Questo è un credo che nessuno fosse ex, diciamo, trotskista. Quindi siamo tranquilli. I situazionisti sono stati, probabilmente, adesso possiamo dirlo perché sono passati gli anni, no? E questo è sicuro, sono stati il movimento della cultura europea che ha praticato più di altri l'intersezione tra l'arte e la politica, tra l'arte e le lotte sociali. In realtà la gran parte di questa gente, tutti questi nomi che vedete qua, Pinot all'inizio, la Fionion, Cosant, eccetera, se ne vanno via tutti dall'internazionale situazionista nei primi anni 60 non ci sono da. L'internazionale situazionista è sempre stato un gruppo piccolissimo. I pretesi aderenti all'internazionale situazionista sono come i pezzi di legno della croce di Cristo, ce n'è un casino in giro, ma in realtà ben pochi loro sono stati davvero, quindi molta gente è stata in contatto, ma loro erano vicinissimi, soprattutto di Debord, che poi che fu ideologo e abilissimamente, cioè poi anche uno scritto organizzativo diventò quello che teneva le reti, insomma, no? Era rigidissimo, per cui l'internazionale socialista non ha mai avuto più di qualche decina di persone, diciamo, di militanti, diciamo, in Europa. Però ebbe parecchi, come dire, simpatizzanti nel corso degli anni 60, soprattutto, perché stavano maturando nell'Europa e nel mondo le condizioni per una nuova ondata di lotte proletarie degli strati sociali più bassi. Si può dire che il proletariato era stato sconfitto con la rivoluzione russa, sembrava che comunque avesse vinto, ma rapidamente dopo la morte di Lenin, dopo la rottura fra Stalin e Trotsky, eccetera, era chiaro che, e poi dopo la seconda guerra mondiale, che aveva tagliato fuori le lotte sociali per concentrare tutto su questo scontro interno capitalismo, tra fascismo e democrazia, insomma, no? Che è chiaro che era una disfatta per il movimento operaio. Ma ora c'era dopoguerra, si era rilanciato un meccanismo di sviluppo capitalistico, c'era un benessere maggiore dappertutto, la guerra non c'era più, si era spostata in realtà la guerra, lo sappiamo, ma infatti, negli anni 60 cominciò la guerra del Vietnam, quindi vuol dire che gli interessi geopolitici delle grandi potenze cominciavano a spostarsi ovviamente ora. Nel 50 c'era stata la seconda rivoluzione socialista in Cina, quella era stata questa lunga marcia, eccetera, e l'altro grande enorme barriere, non so, sapete adesso c'ho paura per altre cose, ma insomma allora c'era paura perché era la seconda. Poi c'è una lunga rottura tra l'uso di quella da Stalin muore nel 52, quindi negli anni 60 c'è già un post-stalinismo, la sovietica sembra aprirsi un po', eccetera, insomma la cosa importante però è che maturano le condizioni per delle nuove lotte che vedono insieme questa volta non più soltanto la classe operaia tradizionale, ma dei nuovi strati di forza lavoro, di persone che non sapevano neanche allora bene di essere forza lavoro, ma che pensavano di essere classe dirigente, ma non lo erano di più niente. Gli studenti del 68 si rivoltano, si ribellano del 68 perché la scuola in quegli anni, in tutto l'Occidente, negli USA già da qualche anno prima, nell'Europa dopo, sta cominciando a cambiare pelle. Tradizionalmente l'università era il luogo dove si formava la classe dirigente in paese. Quando sono entrato io all'università nel 1962, già l'università si capiva che cominciava a non essere più quello. Cominciava ad essere, si allargava, diventava tutto più massimo, cominciava la pressione sociale, per andare, e però cominciava quindi a diventare non il luogo in cui la classe dirigente perpetuava se stessa, ma un luogo di formazione di forza lavoro, molto qualificata, a un altro delle qualificazioni, ma di forza lavoro. Saremmo usciti lavoratori da quella università, non solo quelli delle facoltà scientifiche, come quella che facevo io, ma anche quelli delle facoltà umanistiche, anche quelli che avevano scienze politiche, lettere, sapevano che gran parte che sarebbero andati a fare i funzionari dentro delle aziende, dentro delle fabbriche, a lavorare direttamente alle scienze di natura. Noi a questa cosa ci ribellammo, dico noi perché faccio parte di quella, non solo di quella generazione, ma di parte proprio di quelli che hanno fatto. E diciamo, come dire, ci ribelliamo in parte per motivi, possiamo dire, virgolette, reazionari, perché alcuni di noi non volevano, continuare a fare, come dire, a essere l'aristocrazia intellettuale del paese. In gran parte, in maniera altri perché invece non contestavano il fatto di diventare lavoratori, ma non volevano questo processo, diciamo, di proletarizzazione dello studente fosse gestito dai capitalisti, ma volevano gestirlo loro, semmai insieme con la classe operaria e con gli strumenti politici e sindacali della classe, la maggior parte degli studenti con una posizione intermedia tra queste due, o che le mescolava tutte e due, o che in maniera confusa capiva diciamo questa cosa. I situazionisti avevano intercettato questo processo, questo movimento, eccetera, eccetera, e nel 1967 Guy Debord aveva fatto uscire un libro a Parigi che si chiama La Société du Spectacle. La Società dello Spettacolo. Formula che adesso ha avuto un grande successo, dopo che adesso voi probabilmente, in realtà il modo in cui si usa questo modo di dire oggi è totalmente diverso da come Debord aveva la realtà dello spettacolo non vuol dire la società nella quale l'apparenza domina sulla sostanza, in cui ci sono tanti spettacoli, in cui c'è la televisione. Lo spettacolo per Guy Debord, chiama spettacolo il travestimento dei rapporti sociali come rapporti tra merci. È una classica analisi marxiana di Marx, è una traduzione del pensiero di Marx in maniera adeguata agli anni 60 del secolo scorso, in parte anche a quelli nostri. Allora, io ho il massimo rispetto per Carlo Pecero, che è un dirigente televisivo, e che è un mio amico, che mi ha sostenuto in tante cose, però lui ha scritto una postfazione o una prefazione in una delle tante edizioni italiane del libro di Debord, in cui però, come dire, banalizza e crea un equivoco, che è l'equivoco che poi nei giornali, società dello spettacolo vuol dire la società della televisione, non c'entra un cazzo, porco. Ci potrebbe anche non essere stata la televisione, sarebbe stato un altro. La cosa importante è che però quello che vede bene, diciamo Debord, è quello che è innovativo rispetto a Marx, che il libro secondo me è molto, la terminologia è tutta marxista, tutta marxiana, le classi, plus valore, eccetera, eccetera. In realtà però, cioè perché il libro è importante? Perché Debord già nel 67 si sta accorgendo di qualcosa che adesso è maturata, che adesso è sotto gli occhi di tutti, e cioè che i rapporti capitalistici, diciamo che il dispositivo di funzionamento del capitale non è limitato al mondo dell'economia tradizionale, delle merci materiali, ma cominciava già allora in maniera non ancora economica, teorizzata, ma già nell'immaginario, era già così. Cominciava ad invadere tutti gli aspetti della vita, e quindi la mercificazione della la mestificazione dell'immaginario e della cultura era un processo che già negli anni 60 era iniziato. C'era stato qualcuno che prima di Deborah aveva denunciato questa cosa. Erano stati due signori tedeschi che si chiamavano Theodor Adorno e Max Horkheimer. Due tedeschi che erano fuggiti dalla Germania nel 1933, quando c'erano le leggi, diciamo, razziste, le leggi conservate, perché Adorno aveva una madre ebrea, la camera erano immigrati negli USA, poi erano tornati nel dopoguerra in Italia. Tra gli anni, negli anni 30, però, loro avevano fondato una scuola importante, l'Istituto Social Forschung, l'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, e quindi oggi sono noti col nome di Scuola di Francoforte. Questi due signori sono i due più grandi forse di tutta la scuola di Francoforte. Il loro allievo, il loro collaboratore più piccolino, il giovane di loro, il quale si era trasferito negli Stati Uniti totalmente, scrisse un paio di libri che tra l'altro nel 68 ebbero una grandissima fortuna, che tutti noi del 68 in tutto il mondo leggemmo a Belgrado. Questo signore si chiamava Herbert Marcuse, si crede che tu si collega un po', no? Herbert Marcuse. E i due libri si chiamavano uno Eros e Civiltà e l'altro L'uomo una dimensione. L'uomo una dimensione in particolare, come vedo piccolino, rapido, di una fretta, anche il meno studenti tra noi potranno capirlo, e andare a una gara di successo. Invece il libro più importante dal nostro punto di vista di questi due signori si chiama Dialettica dell'Illuminismo, e uscì nel 1947, cioè appena tornati, quando forse stavano ancora in giro, ma stanno tornando in Germania. Quindi 20 anni prima della società dello spettacolo. In Dialettica dell'Illuminismo c'è un saggio importante che è sull'industria culturale, scritto negli anni 30, alla fine degli anni 30, quando loro sono già negli Stati Uniti, ma in realtà basato anche su quello precedente. In questo saggio sulla industria culturale, già Adorno e Horkheimer si lamentano che la cultura sia diventata una merce, ma in maniera diversa da come farà 20 anni più tardi, diciamo, Deborah. La, virgolette, lamentela di Horkheimer e Adorno è la lamentela di due vecchi signori che sono cresciuti nella convinzione che la cultura sia una zona franca rispetto all'economia, che non debbano entrare dinamiche, interessi, punti di vista dell'economia, dimenticando purtroppo che il libro è stata la prima merce capitalistica del mondo, la prima piccola industria di capitalistico è stata l'industria editoriale, perché un secolo e mezzo, due, insomma, diciamo, quando ancora l'industria tessile non si è meccanizzata, quando ancora non è già nata un'industria del libro, cioè già fin da quando viene fuori il torchio a due cose, già quello vuol dire, già il padre cioè non c'è più l'amanuense che copia, no? Quindi il libro, ma uno dice, diciamo, è vero, come dire, il compromesso che fecero, diciamo, il nascente capitalismo e gli intellettuali fu, va bene, io ti meccanizzo, ti faccio diventare capitalistico il processo di formazione dell'oggetto in cui ci staranno le tue idee, ma quello che ci scrivi è tuo, tu che sei un intellettuale, sei sottratto. Allora, certo, ti do editore ti pagherà perché hai scritto il libro, ti darà una parte dei guadagni, dei guadagni, dei guadagni. Però il tuo diciamo insomma, il tuo processo produttivo di te che scrivi rimane fuori, cioè tu puoi scrivere a mano, a macchina, come cazzo di fare, però tu scrivi fuori dall'incanaggio del capitalismo. Poi certamente per produrre il libro, questo è una merce, c'è un prezzo, si deve vendere, diciamo, l'editore è un capitalista e quindi è ovvio che questo, l'oggetto libro è capitalistico. Naturalmente quello di cui si lamentano o cade al giorno è che però certamente non c'è solo il libro, ci sono le riviste, i rotocalchi, era cominciata, già stava cominciando la televisione come strumento di massa, comunque c'era la radio, che negli USA, paese in cui si era sviluppata da primo, era più notarizio privata, non erano pubbliche come qua in Italia, quindi si parlava sulla pubblicità, c'era la persona, erano meccanismi puramente. E gli intellettuali che erano anche per i fotocalchi, non solo libri, no? Che erano anche sulle riviste, non solo sulle riviste culturali, che erano anche per i quotidiani, per i. Insomma, quindi avevano messo qualche tipino gli intellettuali dentro a questa cosa. Il libro di Ocarina non era, attenzione, vi stanno per mangiare il tuo braccio, ci entrerete dentro, diciamo così, il capitalismo assorbirà, mangerà anche questa cosa. Però, ripeto, la posizione del Cameradon è una posizione per certi versi marxista, marxiana, ma un po' conservatrice. Quindi, no, loro avrebbero voluto mantenere l'autonomia della cultura da questa cosa. Non c'è niente di questa posizione nel libro di Debord del 67. Debord non ha alcuna nostalgia. Debord non si incazza perché dice come sta meglio, come non c'è. No, perché sa bene che questo è un meccanismo ineliminabile. Quello che cerca di fare, di come che propone il Debord, è che gli intellettuali, anche dall'interno di questo processo, siano in grado però di comprenderlo intanto, in primo luogo di capirlo, e quindi naturalmente di contestare questa logica dello spettacolo, di distruggere lo spettacolo, di non farsi. Ma chi può fare questa cosa? Non certamente il singolo intellettuale, non il singolo scrittore, non il singolo giornalista, non il singolo professore universitario e neanche tutti questi associati e messi insieme. Chi può farlo è, in questo lui è totalmente marziano, è quello che ha detto Marx, la gente della trasformazione e della rivoluzione è il proletariato. Ma nel momento in cui, capite adesso perché è stato così importante, perché c'erano questi processi di trasformazione della scuola, del liceo superiore, della scuola, quindi dell'università, che stava trasformando gli studenti in lavoratori potenzialmente, in forza lavoro, ad alto livello ma sempre forza lavoro, c'era questa iniziale e incipiente estensione del meccanismo capitalistico alla cultura in quanto tale. Questa è la vera differenza. Mentre in dialettica dell'illuminismo e Cane Adorno non vedono questo. Loro pensano che il capitalismo in quanto tale sia sempre limitato al settore delle merci materiali. Però dicono questa logica inquina anche la cultura, che però è separata. La società dello spettacolo invece ci mostra come la cultura non sia più separata, sia già dentro, sia entrando dentro al sistema economico di produzione, che la produzione dell'immaginario comincia a diventare altrettanto importante della produzione dei tavoli, delle sedie, dei frigoriferi e delle macchine, delle merci materiali. Questo Cameradorno non lo vedono, Cameradorno continuano a pensare che la cultura abbia una sua autonomia, come dire, ontologica, sostanziale, bisogna difendere dagli attacchi del capitalismo che vuole inquinarla, vuole piegarla, ma il capitalismo rimane una cosa e la cultura rimane un'altra. Nel libro di Debord invece si vede come le due cose siano già dentro, siano già, e quindi sia per le due è più difficile, ma per altri è anche più facile, perché non è detto che sia per forza così più difficile se siamo dentro, come dire, l'ingranaggio, no? Io non me ne rendevo conto allora, perché ero un ragazzino che non era tantissimo letto, cioè, io più avevo un tipo letterario, insomma. Beh, mi sono accorto dopo che in realtà tutto il dibattito che si svolse anche prima del 68 tra i gruppi politici, diciamo, con gli studenti, era basato su questa roba qua, cioè sul fatto che si intuiva che c'era un processo che stava cominciando, ma non sapeva bene come, e che erano queste due tesi, sulla questione della scultura, queste due tesi continuavano a, diciamo, scontrarsi. La cultura sta dentro o fuori del mondo capitalistico? Fuori non vuol dire che sia immune dalle influenze, ma è un'altra cosa, o no, o è cambiato. Il neocapitalismo è in grado di integrare quello che allora si chiamava neocapitalismo, adesso il vero neocapitalismo è stato un po' fondista, che è venuto fuori negli anni 70, fine anni 70, fine anni 80, all'epoca non c'era ancora, però la logica era quella. La società dello spettacolo indica che non la chiama post-fordista, ma in realtà è un primo manuale, diciamo, di sociologia post-fordista, perché è il primo libro nel quale si comincia a vedere che il meccanismo economico si estende a quella cosa. È per questo che i situazionisti, De Boer, i situazionisti sono proprio sensibili a forme di lotta, intanto sanno che un intervento culturale fatto con una certa coscienza ha un valore politico. Perché se c'è questa spettacolarizzazione in quel senso della, diciamo, società, e quindi se i rapporti sociali si travestono da immagini, la sua definizione dice: lo spettacolo è il rapporto sociale mediato dalle immagini. Adesso capite ancora di più perché ne parlo, perché la questione dell'immagine c'è anche qua. È una presa di coscienza, una presa d'atto che l'immagine è diventata un dispositivo sociale, quello che poi Foucault chiamerà dispositivo. È un dispositivo sociale, è una... è un apparato, per usare i termini di Flusser, che poi sono anche analoghi a quelli di Foucault, in cui quello che si produce non è semplicemente, cioè è un dispositivo di controllo, perché è già integrato all'interno dell'economia, perché tu produci già delle merci in pratica. Voi provate a riformulare le tesi di Flusser con una terminologia situazionista e vedete che vi ci trovate, grosso modo. Flusser non li cita mai, ma in realtà molte delle sue tesi di Flusser in realtà derivano da questa cosa. E allora, certamente da un certo punto di vista... certamente De Boer non ha mai detto che non si devono fare gli scioperi tradizionali, eccetera, eccetera, però insomma le cose che lui proponeva, che hanno fatto i situazionisti in modo minoritario e che poi hanno fatto quando è scoppiato il 68, erano proprio azioni di tipo, come dire, chiamiamole di sabotaggio del dispositivo dell'immagine. I situazionisti potevano farle perché, vediamo se qui c'è, perché nel 67, no, qui ci sono solo quelli italiani, credo sono in un altro libro, che non ho portato dietro, comunque ve lo dico lo stesso. Nel 1967, quindi un anno, in realtà il 68 in tutta Europa è scoppiato nell'autunno del 67, che era quello, era l'anno accademico, il 68, nella primavera però del 67, casualmente, due giovani simpatizzanti, forse addirittura un militante situazionista, studia all'Università di Strasburgo. Succede che per una serie di cose questi qua presentano una lista e ottengono la maggioranza nell'organismo rappresentativo degli studenti di Strasburgo. Una volta entrati lì, c'è un rappresentativo fanno più o meno come la PCR, come l'immigrazione nell'Accademia anni fa, quando c'era la maggioranza, ma da un altro punto di vista, in modo corto. Presentarono un progetto, in realtà, di cui in realtà non sappiamo un cazzo, per cui l'università finanziava un opuscolo che parlava della condizione studentesca, e in realtà questo opuscolo era un pamphlet politico contro l'università, e il cui titolo è rimasto famoso, si chiama De la misère dans l'environnement des étudiants, della miseria nell'ambiente studentesco, ed è uno dei testi sulle 68 più importanti, perché lì c'è già l'applicazione delle cose che andava a scendere le borse. Il libro era appena uscito, non sta per uscire, questo libretto esce nell'autunno del 2007. È uno scandalo, perché appena i professori lo leggono, siccome cazzo, questo è il mio contributo all'università di Strasburgo. Perché tu non è stato attivo, chi mi dico, i professori sono una massa di schivi, era un attacco in piena regola con lo stile tipico situazionista, sferzante, che è peggio ancora quello di Marx, proprio brillante, però insomma, a volte si tutta l'Europa ride, loro sono tutti, ovviamente li cacciano via dall'università, però intanto il danno è fatto. E quando ho perso una sillaba. E quando nella primavera del 68 si forma il comitato di agitazione alla Sorbona di Parigi, che all'epoca non ha le 12 sedi che adesso, ma ne aveva due o tre sole, cioè aveva Parigi Sorbona che era al centro, poi c'era Nanterre e un altro che era. Comunque, le comité d'agitation della Sorbonne de Parigi si trova che è fatto per metà di studenti trotskisti e per l'altra metà di simpatizzanti situazionisti. Quindi i situazionisti hanno improntato di sé tutto lo stile del maggio parigino, che il maggio francese è stato l'episodio più famoso a livello europeo di rivolta, anche se non è stato il più importante oggettivamente. Diciamo, altrettanto importanti, se non di più, sono state le lotte degli studenti tedeschi e anche di quelli italiani, Italia e con Germania e Francia sono stati gli inglesi che hanno fatto un po' di cose, ma erano un po' più tirati. Diciamo, l'Italia e Germania e Francia sono stati i migliori, però l'Italia l'Italia può rivendicare come primato quella di aver avuto il 68 più lungo, perché il 68 veramente in Francia è stato solo il 68. In Germania anche, perché per una serie di motivi, comunque in Germania c'è un personaggio che ha di grande rilievo, che era uno studente molto, molto intelligente e molto importante, che si chiamava Bonaduce. Che aveva scritto già dei saggi, dei libri, insomma, aveva una volte gli sparano nei primi mesi del 69, non lo ammazzano ma lo paralizzano in pratica, sta su una sedia a rotelle, non è in grado di farlo. Però insomma, diciamo, il maggio francese è comunque rimasto ormai anche nella storia il simbolo del 68, soprattutto per la grande quantità di scritte, di slogan e anche di manifesti, anche di immagini, quindi di manifesti autoprodotti che ha insomma, prodotto, e li ha tutti prodotti sotto l'influenza del situazionismo in pratica. I trotskisti erano più tradizionali, erano personaggi come sempre, non come erano sempre. Da un certo punto di vista il situazionismo è stato un trait d'union tra le due grandi correnti di questa rivolta giovanile, che già negli USA avevano marciato unite per breve tempo, poi si erano subito separate, che era l'ala politica e l'ala underground, controculturale, chiamiamola come vogliamo. E si erano separati sulla questione dei rapporti tra rivoluzione e vita quotidiana. Là la politica in America era l'SDS, gli Students for Democratic Society, in Europa erano tutti i vari gruppettini, trotskisti, maoisti, insomma, neomarxisti, neomarziali, con l'eccezione dei situazionisti, no? E la tesi di quest'ala era: non è possibile cambiare, è stupido cercare di cambiare la vita quotidiana oggi che siamo ancora in una società capitalista. Prima dobbiamo cambiare la struttura economica di questa società, quindi prima il proletariato deve prendere il potere e creare il socialismo, poi dentro il socialismo si potrà fare quello che voi, hippie del cazzo, chiedete, cioè di cambiare la vita quotidiana. E gli hippie gli rispondevano: vi sbagliate, se separate in maniera così chiara, in maniera così netta queste due fasi, finirete che non trasformerete mai un cazzo, perché aspetterete sempre che le condizioni siano più mature. Invece bisogna cominciare fin da subito, anzi, è impossibile fare un vero socialismo, alcuni dicevano, altri dicevano non ce ne fosse un cazzo del vostro socialismo, erano come dire, varianti, ma la cosa importante era: noi vogliamo invece cambiare la vita quotidiana sin da oggi. E quindi vogliamo farci crescere i capelli, quindi vogliamo fare tutte le robe che hanno fatto dal punto di vista del costume. Le comuni, vogliamo andare fuori di casa, vogliamo avere i soldi per potersi divertire, vogliamo. Cioè, diciamo, l'ala controculturale era relativamente poco interessata agli aspetti che i politici chiamavano strutturali e più a quelli che i politici chiamavano sovrastrutturali. I situazionisti hanno rappresentato in realtà un tentativo di mettere insieme, di conciliare queste due correnti, che sono invece comunque tutte quante separate, insomma. Ed è sbagliato dire che la controcultura non abbia mai dato anche, come dire, dei contributi politici al movimento del 68. Io continuo a pensare che, per esempio, la grande riunione è stata nel 66 o 67, cioè quando gli hippie andarono sotto il Pentagono, fecero una grande manifestazione enorme, c'erano centinaia di migliaia di persone, lo circondarono, ovviamente la polizia, eccetera, lo circondarono e stettero lì e fecero una lunghissima catena umana, e l'obiettivo era di unire la loro forza psichica e far levitare il Pentagono in modo che diventasse un'astronave. Ecco, tutti voi mi guardate e dite: se credo di aver incretinito, cioè lo so bene che non si poteva. Ma era una bellissima metafora, era un po', cioè, che cos'era? In questo modo cosa hanno fatto? Hanno portato insieme le persone e hanno fatto vedere, hanno mostrato, hanno praticato, insomma, tutte. Adesso tutti parlano di Woodstock e di come è svenuto Woodstock, insomma, di Monterey, eccetera, eccetera, ma in realtà a quell'epoca io facevo altre cose, io stavo nell'ala politica, quindi non in quella controculturale. Però guardandole ora, col senno di poi, per quanto riguarda me, insomma, la mia vita, ma trovo che invece ci fosse una forza, perché c'era, come dire, c'era altrettanta voglia di cambiare la società negli hippie che in noi, diciamo così, politici. Ma era più, intanto era più divertente, da un sacco di punti di vista, cazzo. Adesso non c'è la registrata, quindi non posso parlare di per esempio di nessuna sostanza, se no c'è parlare anche di quello. Era dall'altra parte che facevano queste robe, noi eravamo bravi, lì non c'è neanche nulla proprio. E poi soprattutto era più responsabilità della politica questa separazione così netta tra il prima e il dopo, cioè no, prima ci occupiamo di questo, poi dopo diciamo dell'altro, mentre la controcultura aveva almeno il merito di porre dei problemi che riguardavano la anche già la vita, insomma, quotidiana. Allora, diciamo che sino dai primi numeri, allora intanto i Stati Uniti editano una rivista, qualcosa a metà tra un bollettino e una rivista, che poi in realtà negli ultimi anni, la fa quasi tutte le volte. Ah sì, allora, tra i primissimi non credo che sia Van Eyken. Van Eyken è un belga di nascita, ma è poi è sempre vissuto in Francia, e Van Eyken mi entra quasi, diciamo, subito dopo. Van Eyken è l'unico altro nome, diciamo, di un certo peso dentro l'internazionale, che fa dei libri che sono, allora, il libro più ovviamente ricordato, ma quasi l'unico, poi ne ha fatti qualche altro, ma non è la società dello spettacolo. Mentre Van Eyken, però dopo Van Eyken viene espulso pure lui, quindi sta per qualche anno, ma De Bors era fatto peggio di Breton, cioè li espelleva tutti, cioè non tollerava che ci fosse nessuno, cioè quelli che avevano una testa un po' diversa, infatti Alger Niole, tra un Constance, se andavano via all'inizio anni 60. Vi segnalo che tra, entrato mai, ma tra i giovani simpatizzanti italiani della, c'erano due giovani rappresentanti italiani degli Stati Uniti che si chiamavano Enrico Bai e Mario Merz, i quali non entrarono mai nella cosa, ma erano alla fine degli anni 50, stavano in questo giro, erano giovani ancora, non si erano sopravvissuti, ma c'erano delle cose, quindi due nomi, diciamo, di un certo peso. Allora, diciamo, un altro nome è quello di Raul Van Eyken, quindi capite che ha un cognome che è belga, si sente, però parla e scrive in francese. Allora, questa controstoria del suo libro preferito non è il suo libro più importante, i libri più importanti sono uno che si chiama Banalità di base, e l'altro si chiama Trattato del saper vivere, Trattato del saper vivere ad uso delle giovani generazioni, era il titolo dato per il culo, evidentemente. Allora, gli assi di questo, diciamo, di questa tattica rivoluzionaria proposta dai situazionisti e applicata in parte anche nel 68 parigino, ma poi applicata da loro anche in modo autonomo, diciamo, in grosso modo sono due. Il primo è, come dire, il rapporto con lo spazio. Loro sono sempre stati molto attenti alla questione dei rapporti tra il corpo e lo spazio. Questo deriva dal fatto che Constant, soprattutto perché Constant era un architetto di politica, e quindi una delle cose che loro avevano tirato fuori era una roba che si sono diventato disgrato. Una roba che si chiama urbanismo unitario, ed era praticamente una critica dell'urbanistica tradizionale pianificata con il corpo di piano, ed era invece era un, come dire, tentativo di fare, perlomeno di integrare all'interno della pianificazione territoriale quel che oggi chiameremo le esigenze degli abitanti, insomma, le esigenze di quelle di base. E Constant aveva fatto già un sacco di progetti che andavano in questo senso, cioè in cui si tentava di lasciare una, quindi, diciamo, la loro bastia nera era il Corbusier, cioè era il modernismo, diciamo, architettonico. La Bauhaus, il movimento per una Bauhaus immaginista, era una presa per il culo della Bauhaus, per dire, se vogliamo una cosa, diciamo, diversa. Allora, urbanismo unitario. Poi quello che loro chiamavano deriva urbana è una cosa più generale chiamata psicogeografia. Per un certo tempo, per esempio, ci fu un misteriosissimo, probabilmente inesistente, comitato psicogeografico di Londra, London Psychogeographical Committee, sicuramente erano teori, era sempre De Boer, alcuni inventi e alcuni cantieri che si chiamavano così, però c'è questa cosa. Che cosa voleva dire questa? Questo derivava da una figura di Baudelaire, e cioè dalla figura del flaneur. Flâner in francese vuol dire passeggiare, la flânerie, ma è una passeggiata proprio, è ancora più forte che nel termine italiano, in senso di totale casualità. Quando tu passeggi, non perché vuoi andare da una passeggi, vai in giro e ti fai trasportare, non sai neanche se al prossimo incrocio svolterai a destra o a sinistra, le cose così per i cazzi tuoi. E la psicogeografia e la deriva urbana era una sorta di teorizzazione di questa attività flaneristica molto espansa, molto estesa in qualche modo, per far sì che emergesse un rapporto diverso che l'architettura tradizionale non fa emergere tra il luogo in cui tu sei e il tuo stato d'animo. Dico questo perché Luther Blissett fece poi molti anni dopo a Bologna, riprese alcune di queste cose, nonostante che abbiano sempre dichiarato di non essere situazionisti e che De Boer era esclusivo, in realtà facevano le robe che aveva teorizzato De Boer tanti anni prima. E quindi c'è stata anche in Italia negli anni 90, un'attività psicogeografica in gran parte concentrata nelle due città di Bologna e di Roma, anche quelle che erano in cui ci sono stati i gruppi di Luther Blissett, insomma, in qualche modo. Quindi, psicogeografia, un rapporto tra psiche, psicogeografia, no? Tra lo stato d'animo, tra quindi diciamo la passeggiata casuale, la deriva urbana, il fatto di andare deriva, anche deriva in francese è un termine, noi siamo deriva ma si usa poco, perché loro lo usano molto di più. La deriva, quando deriva vuol dire che, sai, che tu hai una direzione, a un certo punto c'è una deviazione, c'è qualche cosa che ti porta fuori, no? Ripeto, era un modo intanto per far entrare il caso, la dimensione casuale nella vita quotidiana, valorizzare il caso, valorizzare quello che può succedere, quello che può capitare a prescindere dalla tua, quindi era una critica implicita al modello del razionalismo occidentale che pretende sempre di incasellare, di chiarire, eccetera, e dall'altro quello di fare una critica alla, come dire, disumanità dell'ambiente, insomma, cioè il capitalismo distrugge il rapporto, cioè lo funzionalizza, no? E dal loro punto di vista il modernismo architettonico non è altro che un tentativo di coprire, di ammantare di un discorso culturale, eccetera, eccetera, in realtà questa che è una brutalità che la società capitalistica fa sulla condizione umana, insomma, no? Cioè, ridurre le città a dormitori, ridurre i palazzi, i quartieri a dormitori, praticamente, insomma, diciamo, se voi pensate al modello di Los Angeles, diciamo, negli Stati Uniti, cioè una città che non da un bel po' di tempo, non da oggi, da decine di anni, impone l'uso di una macchina per potersi spostare, di un'automobile, perché senza automobile non puoi andare da nessuna parte. Una città in cui non ci sono più piazze, nel senso di posti dove sedersi, cioè come nelle città, diciamo, europee, o come negli USA, c'ha comunque New York e una serie di altre città, poi insomma non è che siano tutte così, però anche qui siamo di fronte alla denuncia di cose che negli anni successivi si sarebbero molto estese, che però evidentemente c'erano già. Il primo punto, quindi stiamo parlando delle linee guida per le buone pratiche situazioniste, diciamo, per le attività pratiche del bravo situazionista. Uno è quello dello spazio e la seconda cosa, lo spazio articolato in questo modo. Invece è un concetto ancora più importante, perché è all'origine poi di tutte di una parte delle pratiche dei movimenti negli ultimi decenni del Novecento e anche ancora oggi c'è quelle di cui mi sono interessato anch'io e quelle di cui abbiamo fatto quel po' di esperienze fatte anche a Brera. E quindi il secondo punto invece è una parola francese difficilmente traducibile in italiano o in inglese, che è détournement. Il détournement rappresenta détourner in francese, vuol dire è qualcosa di a metà tra stravolgere e depistare. Noi abbiamo nessuno dei due verbi esattamente è il détourné francese, ma forse tra tutti e due. Sì, è un neologismo che a volte uso anch'io, ma è un neologismo. Cioè, non c'è in italiano il verbo detournare, si può usare come neologismo. Che cos'è il détournement? Leggiamocelo, perché loro l'hanno scritto esattamente, effettivamente, nella... nell'Internazionale Situazionista numero 1, nel primo numero, che esce nel giugno del 58. Dice questa definizione: si impiega, allora, détournement si impiega il termine per abbreviazione, per abbreviare la formula détournement di elementi estetici precostituiti. Io l'ho lasciata in francese qua, ma credo che l'ha lasciata in francese anche i traduttori dell'Internazionale. Allora, vuol dire integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. Integrazione di produzioni attuali o passate delle arti in una costruzione superiore dell'ambiente. Vedete che non dicono che è un'opera d'arte, il però in genere impiega quasi sempre materiali artistici, però può anche impiegarne altri, Poi per esteso si possono fare anche. Quindi è il riutilizzo, è implicito che sia per scopi diversi da quelli per cui era stata prodotta, ecco perché è un détournement, perché c'è stata una deviazione del significato, dell'intenzione delle opere da una certa parte all'altra. In questo senso, dice questo testo, non può esserci pittura o musica situazionista, ma un uso situazionista di questi mezzi. In un senso più primitivo, il détournement all'interno delle antiche sfere culturali è un metodo di propaganda che testimonia l'usura e la perdita di importanza di queste sfere. E qui veniamo al legame con il testo di Stuart Home che abbiamo letto prima. Ai situazionisti, nonostante gran parte di loro fossero artisti di formazione, in realtà non interessava più l'arte. L'arte intesa nel senso in cui Stuart Home la dice in quel pezzo di prima, cioè l'arte come un'attività separata che consiste nel produrre delle opere d'arte che facciano degli oggetti che hanno quella sola funzione e che abbiano quella certa funzione sociale. Ai situazionisti l'arte interessa perché o suggerisce metodi, tecniche, a volte anche prodotti finiti da prendere e trasformare, ma utilizzati per realizzare una costruzione superiore dell'ambiente. In un testo del numero successivo, cioè del numero 3 in realtà, del dicembre 59, si legge invece: il détournement, ovvero il riutilizzo in una nuova unità di elementi artistici preesistenti, è una tendenza permanente dell'attuale avanguardia, sia precedente alla costruzione dell'internazionale situazionista sia successiva. Le due leggi fondamentali del détournement sono la perdita di importanza, che giunge sino alla dispersione del suo significato primo, di ogni elemento autonomo détourné, détournato, cioè quello che ha subito il detrimento. Quindi perdita di importanza degli elementi che entrano a far parte di questa operazione, quelli che avete preso, il vecchio quadro, la vecchia fotografia, la vecchia maquette di un edificio, eccetera. E allo stesso tempo l'organizzazione di un altro insieme significante che conferisce ad ogni elemento la sua nuova portata. Allora, di fatto, credo che dobbiamo dire che siamo di fronte a un tentativo, non ad un processo compiuto, ma a un tentativo di superamento della pratica artistica in quanto tale. Se per pratica artistica intendiamo la costruzione di un oggetto che abbia unicamente un valore estetico, cioè destinato o alla contemplazione o anche alla interazione di una o più persone chiamate spettatori, a loro di questa arte non gli interessa nulla, non vogliono fare arte di questo tipo. In realtà la gran parte di quei pittori detti prima in realtà facevano arte di questo tipo. Facciamo un esempio, Pino Gallizio aveva inventato una roba che lui chiamava pittura industriale, diciamo che è una cosa interessante, in realtà è un po', diciamo, fuorviante il nome. Consisteva nel fatto che, cioè, Pino Gallizio si comprava dei grandi rotoli di tela, tela da dipingere, poi non li tagliava, lo trasformato. Quando arrivava al cliente, diceva, lui aveva chiesto al cliente era quanti metri ne vuoi, gli diceva 2 metri, 3 metri, mentre lui misurava il metro, sull'istante buttava lì un po' di colore, perché era roba tipo del dripping, grosso modo, ma in modo molto meno pensato di Pollock o di cose così, insomma. Però, e in mezz'ora, un'ora, gli faceva il quadro su misura, cioè su misura e fatto, cioè, lì buttava un po' di colore, poi tagliava la tela, avrà messo preso un po' di fissante, arrotolava, gliela dava e questo c'era il suo caso, questa è la pittura industriale, ma era ovviamente pittura, come dire, tradizionale. Ovviamente c'era una intenzione, come ovvio, satirica di presa in giro, no? Quindi c'era un, però di fatto, e comunque il collezionista c'è ancora, che c'ha alla parete il quadro pittura industriale numero 1920 di Pino Gallizio, senza titolo, cazzi suoi, ma c'ha la prima del Gallizio firmati, quindi da un punto di vista non era affatto un superamento, insomma. Andy Niorn ha sempre continuato a fare quadri astratti, tradizionali, interessanti, che sono stati importantissimi per l'internazionale, perché Andy Niorn voleva così bene all'internazionale situazionista che dopo che De Boer l'aveva cacciato via, dopo pochi anni, 2 o 3 anni, Andy Niorn continuò per pura bontà sua a regalare dei quadri a Guy Debord, con i quali quadri Guy Debord vendeva e con questi soldi andava avanti mentre la stazionista. Debord non ha mai lavorato in vita sua, non ha mai voluto fare un lavoro proprio per scriveva un libro, se la faceva si poteva pagare ovviamente dall'editore, però anche la società di spettacoli i primi anni non è che ha venduto, cioè come libri che faccio io, insomma non è che si vendono 1000 copie quando va bene, insomma. Quindi non è che poi ci campano quelle robe lì. Per cui a volte faceva anche lui delle cosine, credo che poi dopo vendeva in certe gallerie, però non ha mai voluto dirlo bene. Però in gran parte erano i soldi del grande, pensate che buono che era questo danese, che poi era stata la capacità di vaffanculo, mi hai cacciato dall'internazionale, che cazzo vuoi da me? E lui gli dava i quadri, perché era rinato di altro. Quindi, primo c'è, evidentemente, questo, come dire, c'è un superamento. Secondariamente capite che comunque c'è una consonanza con una tematica tipica delle avanguardie, che è la messa in secondo piano del prodotto artistico e l'emergere in primo piano del processo, ma soprattutto c'è inevitabilmente, c'è un legame con una tradizione culturale, non della cultura alta, ufficiale, eccetera, ma della cultura bassa, popolare, che è la parodia. Se ci guardate bene, la parodia è una forma di détournement, perché prende qualche cosa che è un modo di dire, da un semplice modo di dire, a una storia, a un'immagine, una cosa, eccetera, e ne crea una versione, prende degli elementi, ma li mette dentro un altro contesto per provocare, diciamo, l'ilarità, eccetera, eccetera, eccetera. Questo stile loro, cioè in gran parte si può dire che l'attività espressionista fosse di tipo parodistico, e per esempio una delle, poi questa cosa dopo un po' si cristallizzò un po' in alcune attività tipiche dei sezionisti. Io conobbi i sezionisti la prima volta che conobbi, io sono stato nella mia vita politica quando ero giovane, ero un feroce avversario di questi sezionisti, perché io facevo pace, non ero ancora trotskista, insomma ero un giovane socialista eretico, quando io sono stato nazista in un periodo che cazzo non c'era ancora, quindi insomma, non era una grandissima vergogna essere socialista. Comunque io ero un socialista ribelle, quindi c'erano sempre maltrattato da tutti i gruppi dirigenti, ovviamente socialisti, però mi sono messo al caso, solo quello volevo io, sono 4 anni soli, non è che sia. Però già in quegli anni lì, poi dopo me ne andai via alla fine del 67, il 68, il 69 li feci, diciamo, come cane sciolto, come si dice. Allora, però in quegli anni, e c'erano, perché Genova era stranamente uno, in Italia non ci sono stati mai dei grossi gruppi, tranne appunto Genova e in parte alcune zone del basso Piemonte. Ma a Genova c'era invece un nucleo forte vuol dire 5-6 persone, non è che fosse, perché loro erano proprio così, i quali però stavano dentro un circolo più vasto e quindi in qualche modo influenzavano una parte di questo circolo che si chiamava Rosa Luxemburg, ma non erano tutti sezionisti. Però durante il 68, 2 o 3 volte, questi fecero delle, comunque ci fu anche per breve periodo una specie di, insomma, un comitato italiano che si firmava in stazione sezionista, anche se non erano proprio sezionisti. Allora, per esempio, comunque, sia questi gruppi, insomma, genovesi che io, diciamo, avevo conosciuto, sia quello che io vedevo in quegli anni 67-68 circolare come produzione stazionista, una delle loro cose preferite, per esempio, era prendere i fumetti di un po' di una produzione, Taxi, Hillary in Italia, suoi fumetti ovviamente di consumo popolari, e cambiargli il balloon. Ci sono un sacco di opere, un sacco di cose marxiste in cui ci sono, abbastanza buffo, che ne so, vedi Flash Gordon, adesso dico fumetti che c'erano quando ero piccolo io, insomma, quindi poteva essere Tex Willer, c'era già Tex Willer, Flash Gordon, Topolino, quel cazzo che fosse, che parla con i fumetti, c'erano dibattiti marxisti. Oppure uno che mi ricordo benissimo perché mi colpì tantissimo era una fiera di raccolta di scritti francesi, però non ce l'ho più, io ho perso tutta la mia biblioteca, ma tutto il mio archivio dagli anni 60 fino all'82 l'ho perso durante un trasloco, quindi non ce l'ho più, quello di forse stava in archivio. Comunque era un bel, insomma, non mi ricordo, era un bel quadernino, una cosina, come un opuscolino, ma in cui c'era in copertina Marx, e cosa c'era di Marx? Non c'era il tradizionale ritratto di Marx, ma c'era il busto di Marx che sta a Highgate a Londra, nel cimitero dove lui è sepolto, no? C'è una statua di Marx, non so se qualcuno di voi ha mai visto il film Morte e ammazzo delle gare, un film degli anni 60 in inglese bellissimo, dove il protagonista, che è Morgan, che non c'entra nulla con quello di Blue Vertigo, come ovvio, è Morgan perché ci suoi, perché ha diritto di chiamarsi Morgan che sia in inglese, e che c'era una mamma comunista del PC inglese, che in Inghilterra sono stati pochissimi, 4 gatti, e lui si ricorda che la mamma tutte le domeniche lo portava al cimitero di Highgate c'è una inquadratura di lui che si ricorda, che lui, diciamo, canta. En passant, questo film contiene la più meravigliosa scena sull'assassino di Trotsky che sia mai stata fatta al cinema, poi c'è un film, ma la scena continua da questo film, questo Morgan è uno veramente matto, e quindi non sa... Morgan è matto dal gare, era il titolo italiano, però provo a vedere se lo trovi. Il titolo inglese mi sembra sia totalmente diverso, però adesso non lo ricordo proprio. E comunque aspetta, il regista ti dico, no, c'erano internet, c'erano internet. Ah, lo guardare. Guardare. C'è Galui, dunque, il regista non sono sicuro se fosse Karel Reitz o l'altro, o Tony Richardson, credo sia Tony Richardson il regista, sul regista sono più tecnici, sì. Comunque c'è, un altro. Allora, insomma, questo è un film bellissimo, che è una storia d'amore, che di, insomma, la sua ragazza lo molla, perché lui è un po' mezzo matto, ma lui è sempre innamorato di lei, e fa delle pazzie terribili. Detta così sembra una cazzata, invece è un film anche politico, insomma. Tra le robe politiche ci sono, però t'ha presa in giro, insomma. Allora lui vive in una macchina, ma non sa neanche guidarla la macchina, parcheggiata lì, però vive in una macchina. Per cui si fa la barba, in macchina, eccetera. E c'è una scena in cui, e però che era una ragazza sotto la casa della sua fidanzata, della terza, così sta lì e le sono le robe coglioni. Cioè la cazzata non ne può più, bla bla bla. E poi credo che alla fine si sposa, sì, perché la scena poi finale è bellissima, che lui cerca di, tenta di rapirla travestito da scimmione, da King Kong, una scena della cosa bellissima, perché arriva il punto, arriva un poliziotto mentre lui si sta facendo la barba, un poliziotto inglese, un poliziotto, lui viene, fa la barba seduto nella macchina, ma con il vestito giù, e tu vedi che si guarda il televisore e si fa la barba con un rasoio a mano libera, con quelli vecchi, no? Quindi non con una gilet, vecchio rasoio, però salutarlo. E adesso non mi ricordo perché non mi ricordo come, però il succo della cosa è che il poliziotto gli chiede, perché lei non può stare qui, sta la barba in macchina, che sai, io non so quale, cioè scopri che quello vive lì, no? Si guarda che lei dice devo fare una multa, eccetera, eccetera. Allora lui non so bene che storia gli impippa, gli dice no, ma questa è una cosa di una repressione, eccetera, eccetera. Dice no, perché adesso guardi, le racconto, e dice adesso le racconto, è come... Chiedo che gli dica, lei vuole fare come l'assassino di Trotsky, non lo so, no, così. Dice, perché lei non sa che, dice, non sa che è l'assassino di Trotsky. Ora il film è stato fatto nel 1962, Trotsky era morto da 20 anni, già era stato nel 1940. E il poliziotto non sa come gestirlo, perché non, cioè, capito, però sta lì a sentirlo, e così mi fa, dice, no, è così, Trotsky, c'è lì, questa macchina lui vive, nella macchina c'è un uovo scotto, prende l'uovo e lo dà in mano. Allora, lei faccia Trotsky, dice, no. E allora questo è Trotsky, poi scotto mette lì la mano, gli mette l'uovo in mano, dopodiché col rasoio, questo comincia a fare, perché l'assassino è arrivato, è entrato nella casa di Trotsky, è arrivato piano piano, senza farsi sentire, silenzioso, è arrivato l'assassino. Stava ad uccidere, Trotsky stava seduto, la scena è vera, stava seduto alla sua scrivania e non lo sentiva, non alzava neanche la testa perché era immerso nei suoi libri, non sapeva da fare, ma l'assassino crudele, pagato da Stalin, lo stronzo, le ha fatto a casa, a quel punto arriva, solleva la piccozza e colpisce, e mentre la colpisce ovviamente decapita l'uovo con una rasoiata rapidissima. Ovviamente l'uovo gli cola tutto in mano al poliziotto che si incazza come una bicia. Insomma, cioè vabbè, visto così, lo so che non è così ridicola perché raccontate, ma vista al cinema è proprio bella, c'era, non so, io mi ricordo, sarà perché ero giovane. L'ho visto, era o il 68 o il 69, no, forse già il 70-71. Questo fa parte di quello che allora si chiamava il New English Cinema o il Free Cinema. Erano i primi giovani arrabbiati inglesi, il cui più importante è Tony Richardson. Poi Tony Richardson diventò famoso perché fece un Tom Jones, non il cantante, il romanzo di Fielding, che era bello, ma era meno. Questi qui erano molto belli perché erano film sulla Londra di quegli anni lì. Ma noi conoscevamo Londra prima, io sono stato a Londra poi vari anni, nei primi anni 80. Però insomma, si conosceva Londra con questi qua. Ce n'era uno carino anche c'era Rita Tashingham, che praticamente che era un'attrice bruttina ma molto brava, bruttina è di non bello, non quelle bellezze, però brava, fa molto espressiva, e giravano, c'era un letto in faro battuto, in notturno, così, che girava per le strade di Londra. Questo girava su un letto come i dottori in Francesco. Forse hanno preso l'idea la scoperta, è di molto dopo, sì, però c'è secondo me la presa da quel coso lì, e poi il regista che ha fatto le cose con i Beatles, cioè John Lester, quello che ha fatto Yellow Submarine, che è di quegli anni lì più o meno, c'era un gruppo di giovani registi inglesi, Carol Rice, Tony Richardson, Lindsay Anderson. Cazzo, se vi capita di vedere If, un film cattivissimo, in cui, cioè, maturo, potente, che era un film proprio tipicamente sessantottino, cioè della rivolta studentesca, dove ci sono i giovani di un college che si rivoltano e fanno un massacro i genitori, perché li hanno repressi, come ovvio. Ma è tutta una cosa folle, fantastica, no? Insomma, comunque un bel cinema di critica sociale, eccetera. Fatemi chiudere il discorso così poi vi mando via, però perché ho tirato fuori Trotsky, chi cazzo si ricorda? Non mi ricordo, non mi capisco perché ho fatto questa roba. Vai, tiro fuori Trotsky, ora vi spiego perché è boh. Cosa? Ah, è bravo, guarda, quindi è bello. È la cosa di Marx, mi ricordo, perché è la cosa di Marx. Allora, questa cosa c'era, la statua di Marx, con il fumetto, quindi come fosse, cioè non era un fumetto, era una foto di una statua di Marx, gli avevano aggiunto un fumetto, e Marx diceva, aspetta, mi ricordo bene, la battuta era tipo una roba tipo: abbiamo sempre amato, lui parlava a plurale, tipo come fosse, no? Abbiamo sempre fatto molta attenzione alla cultura popolare. Per questo, 12 anni or sono, fondammo l'Internazionale Situazionista, quindi che era una rivendicazione che a noi ha chiamato Marx, che ovviamente è una cosa. No, però poi vi voglio dire l'altra, perché c'erano altri che erano proprio con fumetti normali, con le cose cambiate, oppure per esempio una volta fecero a Genova un Coccolantino che fece grande scandalo, grandissimo, se adesso mi adesso vi mando via. Grandissimo scandalo, perché che anche noi criticammo, noi politici, perché venne distribuito alle scuole elementari. Ed era un motivo di fella per una nuova era dei diritti dei bambini. E dice: bambini, ribellatevi, non andate più a scuola, voi avete il diritto di non andare a scuola, avete il diritto di disobbedire ai vostri genitori, avete il diritto di fare quello che avete, il diritto di mangiare le caramelle. Vabbè, aspetta. Fronte retro, i disegnini, cioè era pieno di disegnini, i disegnini erano disegnini presi da una cosa che era già storica allora, un grande poster di grande formato con tutti i personaggi di Walt Disney che fanno le peggio schifezze sessuali, si inculano, si trombano, tutti i colori, cioè il sottopolino che fa un pompino, non so chi, una cosa. E loro avevano ritratti presenti e avevano messo lì. Ovviamente gli hanno detto la polizia, eccetera, eccetera. E noi, provocatori, eccetera, eccetera. Invece era un'ottima idea, secondo me. Cioè, adesso, passandoci adesso, insomma, perché era buona. Cioè, questo era un tipico del tournoi, cioè prendi Topolino, lo cambi, gli fai una roba, eccetera. E questo, come dire, questo manifesto si vendeva nelle vetrinelli dell'epoca, io me lo ricordo. Cioè c'era, insomma, io non l'ho mai preso, ma insomma, tutti quanti ridevano, già cosa volevo stava a parlare. E questo è attaccato, questo l'hanno messo lì, poi io distribuito questo mattino, perché questo era lo stile, grazie questo. E gran parte del maggio è una cosa del tipo. Allora, spero di aver spiegato vagamente un po', diciamo, gli antefatti, l'origine di questa cosa. Dopo questo c'è una lunga roba di casa mia, noiosetta, ma ve la leggete lo stesso, e poi c'è Anna Damolo, parliamo di Anna Damolo. Allora, chi tu fai tu, lo fa lui, fate voi. Siete d'accordo? Questa è una dispensina, che è quella che ho usato nell'autoproduzione di 3 anni fa, però secondo me i tempi sono quelli, ve la lascio a uno che si faccia le fotocopie e io faccio storia.